Carissimi seguaci del Tentacolo Viola, bentornati a un episodio finalmente regolare della serie. Torniamo per questo 13° episodio con argomenti di varia natura come 3DS e iPad 2, il perché ai videogiocatori piace così tanto uccidere e il senso della vita per quanto riguarda le collection in HD dei vecchi giochi. Approfitto di questa breve introduzione per dire che il blog del Tentacolo si è spostato su iltentacoloviola.wordpress.com, dove peraltro è un po' più semplice commentare, comunque è un po' più semplice editare e è un po' più semplice tutto. Vi lascio finalmente a questo 13° episodio e buon divertimento. Ciao a tutti e benvenuti al 13° episodio del podcast del Tentacolo Violo. Torniamo finalmente in una formazione classica, ovvero il sottoscritto Davide Moretto, Andrea Maderna. Ciao. E Paolo Cego. Salve a tutti e grazie di aver aspettato così a lungo per avermi fra di voi. Credo che oggi in casa festeggiamo una settimana dall'ultima infezione del mio bambino. Che facciamo anche le corna che non capitino. Mi stavo già toccando le parti basse quando ho detto episodio 13, quindi... Ma difatti, insomma, comunque, questa è la prima volta peraltro che ognuno parla in uno stato diverso, quindi anche questa cosa, insomma, giusto perché non ci facciamo mancare niente. Però potevi andartene dall'Italia anche tu. ci sto provando, non credere, ma ci sto provando, ma i francesi mi rimandano indietro, vabbè. Partiamo con, allora, un mese circa fa, quando avremmo dovuto registrare la scorsa puntata, e si è chiuso il primo sondaggio del Tentacolo Viola, insomma, sondaggino veloce con una decina di domande, e così lo commentiamo un attimo velocemente. Per esempio, alla prima domanda, ascolti il Tentacolo Viola, 4 persone hanno risposto no. Questo è anche carino. Perché, insomma, ma magari uno ero io. No, uno era sicuramente Sergio, quello che aveva partecipato, il mio amico che ha partecipato a una puntata, quella dove c'era anche Umberto Moglioli. Sì, perché lui non ci ascolta, purtroppo, c'è questa fissa. Comunque, pare che siamo abbastanza apprezzati, infatti il 65.2% dice che è molto, gli piace molto il podcast, è molto divertente, lo ascolto sempre con gioia, e, mentre il 12.4% dice che piace tantissimo, il miglior podcast dall'invenzione di internet. Addirittura? Sì. Okay. Una persona ha risposto pochissimo, spero che vi bruci il PC, quindi... Però, va bene. Tra l'altro, col fatto che 2 su 3 abbiano giocato Crysis 2 di recente, potrebbe anche succedere. Perché... Me l'ho giocato su 360. Ah, no? Ok, allora solo il mio sta per esplodere, va bene. Sì, sì. Comunque, e poi, se gli utenti o gli ascoltatori, o come cazzo vogliamo chiamarli, ciao ragazzi, ascoltano altri podcast, vince, per tristezza somma immagino di Andrea, Rincast. Con no, ma però, si sa che alla massa piace la merda, no? Le mosche, ma tutte lì. Però al secondo posto abbiamo Outcast che batte di poche, di una lunghezza, multiplayer.it. Il resto è noia, come si usa a dire. Ci facciamo un sacco di amici in questo momento. Ma no, nel senso, cioè, gli altri percentuali sono molto più basse. Diciamo che questi sono quelli più seguiti da... dalle persone che seguono anche noi, poi sai, cioè, da quelle è ovvio 4 che... persone che seguono anche noi. Esatto, è ovvio che noi, avendo avuto questa genesi un po' dovuta a Rincast, è facile che chi ascolta noi ascolta anche Rincast o Outcast, ovviamente. Scusa, una domanda, ma le risposte le hai scritte tu? Le possibili risposte alle domande? Sì. Cioè tipo, è molto divertente, lo ascolto sempre con gioia. Sì, l'ho scritto io. Chi altro l'ha detto? No, perché perché mai pensato, siccome sono, sembrano, a parte qualcuna che è un po' più particolare, sembrano in effetti le classiche risposte da sondaggio, tipo quelle del sito Nintendo. Sai, io a volte mi occupo di customer satisfaction per lavoro. Diciamo che spero che vi bruci il PC, non lo metto quando faccio quelle per lavoro, però potrebbe essere un'ottima cosa. Come ospiti, qual è stato il più apprezzato? Vince Pierpaolo Greco, Ma sorpresona, al secondo posto a pari merito abbiamo Vito Iuvara con, udite udite, la dottoressa Valeria, che è riuscita a, a battere praticamente tutti, solo, solo Pierpaolo è riuscito a fare di più. E poi alla domanda cosa modificheresti, aggiungeresti al podcast, la maggior parte delle, delle persone hanno detto voglio che... No, aspetta. Aspetta, c'è un motivo per questo lapsus freudiano. Voglio che parlate più di cinema, ma Voglia delle donne arriva ampiamente seconda come, come risposta, anche se da qua c'era la possibilità di inserire del testo. Uno ha scritto Voglia delle donne nella mia vita, non nel podcast, che è sempre interessante. Da serie TV, una sezione dove si informa la gente quali blockbuster recenti e non sono una rottura di palle e perché... magari ficcarci un punto, voglio un focus maggiore, più profondo sui giochi attuali, magari con una o più audio recensioni complete anche per distinguervi dalla valanga di altri podcast, e uno, il primo peraltro che ci ha risposto è voglio un pollo di gomma con carrucola in omaggio. Bravissimo. Questa mi sembra forse la chiosa migliore per chiudere questa parte. Poi, se insomma, quella la tralasciamo. Scusa, visto che c'era c'è un 29% di voglio che parliate di retro gaming, segnalo per i nostri ascoltatori che in questo momento mi è arrivata un'email da goodoldgames.com, cominciano a mettere in vendita gli Alone in the Dark. Quelli vecchi vecchi? Sì, sì, c'è il primo, ci sono altri 5 spazi, quindi suppongo saranno il 2, il 3, il New Nightmare, quello brutto, e poi c'è The Witcher il 10 maggio. Mangiamo su PC di oggigiorno. Eh beh, ma su Good Old Games li sistemano la patch, sa la peppa per funzionare su Windows 7, eccetera. Io ho scaricato di recente The Last Express e funzionava benissimo su Windows 7. Sì, probabilmente prendono le cose freeware che quelli che... Sì. E poi le tirano su. Sì, assolutamente. Però quel poco che ho comprato da Good Old Games funziona bene. Per cui, insomma, andate su Good Old Games, dategli dei soldi, che questi sono bravi. E comunque sono sempre giochi che fanno la nostra storia, vero? Cioè, no? E poi invece, sorpresa per me, che quando nella domanda cosa usi per scaricare il tentacolo viola, molti, la maggior parte ha risposto di Toon, ma il 39% ha detto direttamente al link MP3, che è una cosa che sinceramente ignoravo questa, pensavo che la maggior parte scaricasse da iTunes e poi anche se non hai l'iPod se lo mettesse tranquillamente sul lettore. E poi, all'ultima domanda, che in realtà era, se hai voglia lasciaci un commento, se no niente, abbiamo avuto qualche simpatica risposta. Vabbè, tutti un bel saluto, Dave ti voglio bene, Andrea mi eccita, e cose del genere, non sto scherzando. Uno ha detto che vuole che io parli di meno. Sì? Sì, ma perché parlo troppo, che è vero, e sembra di stare ascoltando Outcast. Ah, è vero, è vero. Davide più Andrea più Ferruccio, il mio podcast ideale, se ci fosse pure il marrone io culerei all'istante. Vabbè, questo è gente che un saluto. Poi a quando le tette di Rumika, e questo si è sbagliato pensando che sia Outcast. Però è bello essere scambiati per altre cose. E, vabbè, comunque diciamo che a parte insomma qualche piccola critica che veramente non leggo neanche, però insomma chi ha risposto è stato anche abbastanza simpatico. L'audio è sempre buono, ma attenzione a non sovrapporre più voci o sghignazzi, cosa che accade spesso e crea frasi troppo caotiche, eccetera eccetera. Va bene, comunque questo era, mi sembra che sia andato abbastanza bene come sondaggio. E anche perché insomma difficilmente credo uno risponde vaffanculo, però sai. Beh, qualcuno ha risposto che sperava che ti si bruciasse il PC. Sì, beh, però una persona sola, dai, probabilmente è quel tizio che sta fuori casa mia e mi guarda malissimo tutte le mattine. Comunque, allora, dopo questa breve introduzione arriviamo al primo argomento di questa serata, che nell'ultimo mese sono usciti due oggettini, peraltro lo stesso giorno, in Europa, il 25 marzo, sono usciti due oggettini tecnologici mica da ridere, ovvero il 3DS e l'iPad 2. Io mi sono comprato l'iPad 2. Andrea si è comprato il 3DS. No, attenzione, mi è arrivato per lavoro. No. Sottolineiamo questa cosa. Paolo, ma te lo saresti comprato? Ma io l'ultima cosa che ho portato in Nintendo che ho comprato è il Game Boy, no, il Game Boy Advance ho comprato. Sì, io comunque ho comprato pannolini. Perfetto, che probabilmente nel primo o poi l'avrei comprato il 3DS, però francamente al lancio, ma non mi sembra una roba che valga troppo la pena comprare, a meno che non c'hai tanto il trip di giocare un gioco in particolare. Ma proprio per questo, io per esempio 20 minuti prima di registrare ho comprato Asphalt 6 per iPad 2 a 79 centesimi. a 79 centesimi. Ora, la versione per Nintendo 3DS, che peraltro mi sembra di aver capito che è uno dei giochi più deboli della lineup, costa... Sei tendenzioso, però. No, è che l'ho comprato un attimo prima di registrare. Ho detto, capito, vabbè. Però cioè, non è che puoi tirarmi fuori Asphalt, no, per dire non ne vale la pena. È allora, grazie al cazzo. Facciamo un discorso. No, in realtà volevo andare sul prezzo del gioco, però facciamo un discorso diverso. Nel senso che, partendo dal 3DS, io l'ho provato purtroppo, dato che non me li regalano a me questi aggeggi, porca. Vabbè, non è regalato, se smetto di fare sto lavoro lo devo restituire. Diciamo che faccio un lavoro diverso da quello dove mi danno questi aggeggi da testare, ecco, mettiamolo così. L'ho potuto testare solo nei centri commerciali facendo aggomitate coi bambini. E devo dire che l'effetto 3D è molto carino, non me l'aspettavo, pensavo foste tutti pazzi che dicevate che era carino. E ho provato Pilotwings e Monkey Ball, credo, e devo dire che come oggettino, così come Nintendo DS è un po' più pompato, è simpatico, insomma l'effetto 3D è molto carino. No, ovviamente non ho potuto giocare approfonditamente i due titoli perché c'è una scorza di gente dietro, ah, non si vede il 3D, ah, questo signore è ancora qua da due ore. Però mi sembra che comunque, anche guardando la lineup, mi sembra che Nintendo abbia un po' affrettato il lancio di questo aggeggio, considerando anche che tutti i servizi laterali, ovvero il browser, il market e alcune altre cose, sono ancora di là da venire. Cosa ne pensate di questa mia idea geniale che mi è venuta così? Secondo me ni, nel senso che è vero che i servizi sono, cioè allora sarebbe stato più bello se fosse uscito più avanti con già tutti i servizi e con qualche gioco figo in più, sicuramente, però alla fine i servizi che mancano sono quelli legati a internet, che per carità sarà bello averli, ma non è che sia mai stato la priorità di Nintendo. E quanto alla lineup, vabbè, ma ogni volta che esce una nuova console si dice la lineup fa cagare, poteva lanciarla dopo, è sempre così. C'era qualcuno in Nintendo che si lamentava che qualsiasi cosa facessero non andava comunque bene, nel senso, se non escono con un Mario dicono ah, ma non siete usciti con un Mario, se invece escono con un Mario dicono ah, ma uscite sempre con Mario. Quasi me li facevano un po' pena i signori Nintendo. No, beh, però hanno venduto bene nei primi giorni del lancio. Adesso, per esempio, in Giappone, vabbè, stanno addirittura vendendo meno della PSP. In Europa, negli Stati Uniti, comunque c'è un leggero caro fisiologico, ovviamente. Non è che può vendere un milione di pezzi ogni weekend, costa anche un bel po'. E difatti, secondo me, comunque, cioè, è una console strana, non so come dire. Adesso non mi ricordo a quanto era uscito il Nintendo DS, quello ciccione originale, però. A me sembra che per quello che offre sia un po' troppo cara. Cioè, va bene l'hype della nuova tecnologia 3D, che personalmente dopo sei mesi secondo me non lo userai più, anche coi giochi, cioè, o fanno della roba stratosferica o boh, bello, però dopo un po' ti verrà da giocare in 2D, perché secondo me niente pazzo. E boh, secondo me è stato molto affrettato il... Ma il 3D c'è da dire che lo puoi regolare, per cui secondo me se lo metti basso alla fine poi non è una cosa che pesa. Sì, ma ho capito, ma allora, cioè, quello che dico è, una console che come novità principale ha il 3D, e però poi lo metti basso così non ti dà tanto fastidio. Beh, no? Però, ma sì, no, cioè, io dipende un sacco dal gioco, con alcuni giochi lo tengo alto, con altri basso, poi magari se sono stanco lo abbasso un po', però alla fine comunque lo noti, anche se lo tieni basso è figo il 3D, t'assicuro, dipende dal gioco, ma per dire Pilotwings, anche tenendolo appena attivo, introduttore ce l'ho davanti adesso, cazzo, la montagna è lontanissima. Ma... Ma poi quando disattivi il 3D, cioè, ti manca qualcosa? Dici, cazzo, però si vede che... Beh, un po' sì, devo dire. Cioè, allora, ci giochi benissimo anche senza, e sto giocando come ho sempre giocato. Però se lo attivo, wow, bello! Cioè, è quella roba lì, lo attivi... Allora, a me dà molto, mi fa il 3D nei videogiochi lo stesso effetto della grafica della Madonna, che... La noti quando inizi a giocare e la noti ogni tanto quando c'è il momento posto, spettacolare. Sì. Il resto del tempo stai giocando, non ci fai caso, è anche normale. Ma sto cercando un motivo per non comprarlo, perché in realtà io ho dato tanti quei soldi a Nintendo che la metà basta, e ammetto che anche qua glieli darei, però Tanto esteticamente è bruttino. È veramente una merda esteticamente, se posso dire. Non so se Nintendo... Il 3DS. Come del resto era bruttino il DS, il primo modello del DS. Che però, cioè, rispetto al primo modello del DS, questo è un gioiellino. Eh sì, ma c'è ben poco di peggio. No, io non lo trovo così brutto, però vabbè, sono io che non c'ho. Io vorrei fortemente contribuire alla discussione, però ammetto che il 3DS l'ho visto da 5 a 10 secondi dalle spalle di mio amico. Spero dall'angolazione giusta almeno, mentre giocava a Street Fighter 3D. Però ovviamente quel poco che ho visto non mi ha fatto cascare uscire gli occhi fuori dalle orbite. Se è simile all'effetto 3D che ho visto su PS3, onestamente a me continua a lasciare abbastanza unimpressed. Come in italiano, aiutato. L'abbiamo capito, sì, scettico, insomma. Mi dà un attimo l'effetto, avete presente quei libri per bambini che ti sfogli le pagine e le pagine vengono fuori? Ma quelli con i pezzi di cartone che salgono fuori? Esatto! Su. Mi dà quell'effetto lì. Ma tra l'altro quell'effetto lì è una figata, perché Monkey Ball, sì, cioè, i filmati fatti in quel modo sono bellissimi, sono la cosa più bella in 3D. Per quei tipo qualche secondo che lo vedo, ah, figo, e poi torno, beh, poi giro pagina e faccio, ah, figo! Beh, un po' tipo come Homer Simpson che tocca la corrente elettrica in continuazione. Da un punto di vista ludico, quello che ho visto in 3D ripeto su PS3 perché 3DS non l'ho potuto vedere abbastanza, no, non mi ha detto granché. Quello che mi chiedo io è l'unica salvezza personalmente che vedo per questo effetto 3D che potrebbe tornare a interessarmi e qui mi dispiace non averlo provato, credo su Gran Turismo 5 ci sia già qualcosa di simile, una specie di head tracking, in modo che se io muovo la testa, fai conto a destra, mi fa vedere più a sinistra. In quel caso a me mi darebbe la sensazione che io sto davvero vedendo dentro lo schermo e quello mi darebbe... Cioè, ci vedo possibilità ludiche interessanti in quel caso. Ma quello che ho visto adesso presso del 3D mi ha lasciato così. Cioè, non, ludicamente parlando, non mi sembra dia molto di più. Fermo restando che potrebbe essere un problema della mia vista, perché già ai tempi di Avatar, a me Avatar non ha detto assolutamente nulla del 3D. Quindi magari ci sta che i miei occhi non sono, come dire, adatti a trarne il maggior vantaggio. O forse sotto il fatto che io aspettavo Avatar da 10 anni. E quindi ma in Avatar è proprio quello, ogni tanto, oh figo, e poi sì, vabbè. Io mi mancavano pure quei momenti. No, beh, all'inizio, cioè, quando si svegliano lì. Andrò dall'optician, andrò dall'ottico. Nei videogiochi che sfruttano molto la profondità, tipo i giochi di guida tipo Pilotwings, secondo me il 3D qualcosina aggiunge, perché la prospettiva, insomma, come vedi le cose che si avvicinano, sì, può dare qualcosa. Però sì, anch'io non ci vedo tantissimo. Parentesi, al lancio il DS costava 149 euro, porca troia, cioè, sei anni fa questo. Insomma, c'è una certa differenza. È vero che qua abbiamo un hardware più potente, però sono passati anche 6 anni, quindi mi sembra un po'... Beh, cioè, che sia più che altro lo schermo che non ha bisogno di occhiali, credo che comunque sia una cosa abbastanza... Beh, se fosse così facile Sony e gli altri avrebbero già fatto le televisioni del genere. Televisioni no, però ci sono le fotocamere. Ci sono già le fotocamere? Sì. Tra l'altro, allora, un anno fa c'era una fotocamera, però non era così figo l'effetto. L'ho vista circa un anno fa la fotocamera, mi ricordo. Ero andato alla presentazione del 3D di Nvidia, quello per PC, e c'era Gallarini che aveva la foto. No, forse non era Gallarini, vabbè, insomma, comunque c'era qualcuno con questa foto. Fighissimo! Esatto, e faceva le foto 3D, però non era così bello lo schermo, però suppongo che oggi ci siano delle fotocamere con uno schermo simile. Il discorso è che la TV... probabilmente è molto più costoso fare lo schermo grosso come una TV, e poi comunque non puoi fare una TV che se ti sposti di un centimetro non vedi più un cazzo. sì. Beh, peraltro mi sono perso via con... Stavamo parlando del 3D. Sì, ma mi sono dimenticato, vabbè, comunque... E tra l'altro adesso non riesco più a distinguere, quando faccio una discussione che riguarda i videogiochi, non riesco più a distinguere il 2D dal 3D, perché secondo il 3D tutti pensano a questo effetto... tridimensionale, ma in realtà io magari stavo semplicemente parlando di un gioco poligonale. Cioè, non potevano inventarsi un'altra parola, scusate. Il vero 3D. Real 3D, che per, in realtà è un marchio registrato. Gimmick. O potevano semplicemente chiamarlo Gimmick. No, io contesto a Nintendo il prezzo della console, la lineup tristissima, e che guarda che se io non me lo sono comprato al day one vuol dire che la lineup era veramente brutta, perché tutte le cose a Nintendo mi sono comprato, i portati a Nintendo quasi tutti al day one, ho preso anche il Game Boy Micro, ve lo ricordo sempre. E comunque una mancanza. Secondo me è molto più scemo uno che ha comprato al lancio il Game Boy Micro di uno che ha comprato il 3DS. Ma... vabbè, ma era carino, dai, poi c'avevo anche giochi. Sì, cioè... sì, andiamo avanti. Sì, e, invece, nello stesso giorno è uscito l'iPad 2, che io ho trovato per caso in un negozio la settimana dopo senza farmi 38 ore di coda come qualche simpatico ragazzo qua in Italia. Non so se nel resto del mondo, dalle vostre parti, no, però hanno mi ha ricordato i libri di Harry Potter, che qui in Inghilterra probabilmente facevano la fila di notte, poi casualmente andavo la mattina dopo in stazione e l'ho trovato dappertutto. In edicola. Sì, nell'equivalente dell'edicola qui in Inghilterra, era dappertutto. Scusa, ti ho interrotto. No, no, volevo dire che appunto, a parte la botta di fortuna, in realtà avevano proprio il modello che secondo me gli altri erano tutti esauriti, cioè quello base da poveraccio, e devo dire che io non avevo l'iPad 1, quindi mi sono portato in casa questo gioiello ed è una figata pazzesca. Prima di tutto, vabbè, perché comunque è compatibile con tutte le app vecchie dell'iPod che io ho, quindi insomma le posso riciclare, e poi perché comunque è un pezzo d'hardware della Madonna, cioè veramente eccezionale. Nella parte, diciamo, ludica della cosa, io mi aspettavo fosse una sorta di iPod Touch gigante con giochi, praticamente gli stessi giochi in HD. Ovviamente è molto così, cioè sono molti giochi portati da versione normale a versione HD, la chiamano loro. Vabbè. E poi però c'è tutta una serie di cose apposte per iPad, tipo il gioco di cui parlerò dopo, che sono dei piccoli gioiellini che costano comunque... 3 euro, 4 euro, 7 euro, proprio roba tipo il Real Racing 2 HD, che è un giocone della Madonna, graficamente guardando, cioè deve essere anche costato 2 lire. Quindi è la cosa che mi viene da pensare, tipo io appunto oggi ho comprato da 79 centesimi Asphalt 6, è lo stesso gioco, anzi più brutto da come sento, perché non l'ho visto, molto più brutto, su uno schermo che non è da 9 pollici, costa 44 euro per Nintendo 3DS, cioè secondo me oggi come oggi veramente il gioco, oltretutto dei giochi anche come Pyloquins che non dura 150 ore, farli pagare 44 euro mi sembra veramente... Però, questo però è Nintendo paradossale. Alle royalties da pagare... Sì, però Pilot Wings è di Nintendo, non è che esatto. Si paga le royalties, sono scherzi. Ma in effetti, my argument is invalid. No, va bene, Asphalt, metti 10 euro di royalties, metti 10 euro di royalties, però cazzo, com'è che tu, azienda, non lo fai pagare, che ne so, 15 euro, 15,5 che faresti pagare su iOS, metti anche 10 perché c'è la scatola, dai. Cioè quanto vuoi che costi la scatola quella roba lì? Ma Asphalt è paradossale, anche se magari lì pesa il fatto che boh, magari il motore per supportare il 3D ha dei costi di sviluppo, però al di là di quello su DSiWare uscivano le conversioni dei giochi di Gameloft per sì, cellulare sì. E comunque costavano di più. Sarà per le royalties, sarà per quel che è, però un gioco che magari su iPhone potevi comprare a 90 centesimi, su DSiWare lo trovavi a 5 euro. Che poi magari li vai lo stesso 5 euro, però sì, c'è sì, comunque sì. Il confronto che è assurdo. Ma è ovvio che non, cioè, il senso dell'esistenza del 3DS e poi anche di NGP sono i giochi quelli che sull'iPhone e sull'iPad non hai, tipo, cazzo ne so, God of War per dire, Uncharted. Sì, sì, sì, Zelda, insomma, e sta del fatto che la gente li voglia o meno ancora, che è la grande domanda su cui ci interroghiamo tutti oggi. No, beh, secondo me c'è mercato per quelli, c'è, perché insomma, uno come me, Zelda, Mario, o un bel gioco, insomma, un Gran Turismo fatto bene su NGP, un God of War fatto bene, li spendo 40 euro per quei giochi lì. Quello che mi lascia perplesso è, oltretutto, a parte che le royalties non è vero che non ci sono sull'applicazione su App Store, perché il 30% va a Apple, quindi la royalties c'è. Cioè, nel senso, sul 100% del gioco 30 vanno a Apple. che a ben vedere forse è più della royalty che chiede Nintendo sul costo totale del gioco. Sì, beh, però cioè, nel caso del gioco scatenato per 3DS devi mettere in conto che comunque devi produrre la copia fisica, distribuirla, cioè sì, sì, sono sì, anche sì, quei costi, sì, eccetera, eccetera, sì, sì, sì, lo shipping e tutte quelle vacche. Però boh, a me sembra, è ovvio che comunque l'iPad 2 serve. Io per esempio pensavo di usarlo quasi solo per giocare e mi sono ritrovato a passare le serate a leggere riviste che non leggevo da 20 anni e ho scoperto che ci sono ancora su Zinio, è bellissimo anche questa cosa. E quindi boh, è un aggeggino veramente, non credevo, è proprio bello bello bello bello. E a livello ludico secondo me, sia con giochi con versioni diciamo tipo FPS, quella roba lì, che comunque lo schermo più grosso ti dà la possibilità di evitare di incrociarti, come si dice, coprire lo schermo coi pollicioni, no? Sì, quello io adesso per dire, ho giocato un gioco su iPod, un puzzle game, una specie di Lemmings coi pinguini, Arctic Adventure, molto carino, però figa, ed è veramente da giocare su iPad perché vedi il doppio della mappa e soprattutto per selezionare le icone e piazzarle non continui a sbagliare dove metterle, cosa che invece succede sull'iPod. No, ma difatti lo schermo grande dell'iPad, peraltro se tu hai la versione diciamo dell'iPod è vero che si vede un po' sgranata perché ti raddoppia la cosa, però anche lì ti facilita molto la cosa perché comunque le tue dita non diventano grandi il doppio, quindi... No, ma poi credo che alcuni, cioè voglio dire, spero stia diventando pratica comune, però ad esempio questo gioco qua, la versione iPad ha proprio, cioè vedi più mappa, quindi è fatta bene, sì, e non solo, tu lo compri una volta e ce l'hai su entrambe le piattaforme. E questa purtroppo non è ancora una buona maniera, tanti sì. Già solo per esempio il softwareino per leggere i PDF che si chiama Goodreader e dello stesso, cioè, insomma, per iPod costa 79 centesimi, per iPad 3,99. Cioè, l'ho comprato due volte. Forza. Invece Infinity Blade, cioè, è lo stesso gioco e lo usi da entrambi, e sull'iPad è una cosa fuori dalla grazia di Dio. Cioè, se iniziano a fare gli FPS con quella grafica lì, cioè Sony deve ripensare qualche cosa. È l'inizio dello schermo, però su NGP li giochi con i due analogici. Comunque fa un po' la differenza, dai, non puoi dire che non fa. No, più che altro sono i due analogici, sinceramente ormai sono abituato, sono i tasti proprio fisici, che quando devi spostare il dito veloce e devi pigiare lì, lo manchi, cioè nel senso, se il tasto fisico ovvio che il tatto è... Sì, poi su NGP oltre ai tasti e gli analogici c'hai anche il touchpad sexy da toccare dietro. Secondo me quello serve nelle loro simulatori di appuntamento, che insomma tocca qui, tocca là, eccetera. Vabbè, cioè guarda, male che vada sono due tasti in più. In che senso? Nel senso, il peggior modo in cui lo puoi usare è che sono due tasti in più che poi c'è, non lo so, il Tetsuya Mitsuguchi che c'ha l'idea geniale, ti fa un gioco in cui accarezzi, sa Dio. Va bene. Oppure da qui affinché non esce l'NGP cominceranno a togliere features ad una, sì, ad una. Esatto. Ah, avevamo 7 porti USB per la PS3, ma adesso ne abbiamo 2. E purtroppo Linux era in una di quelle due. Il touchscreen è diventato solo touch, non c'è più lo screen, è tutto touch. Ma scusa, dove gioco? Non mi spiace. Comunque, io avrei una domanda per voi, ragazzuoli. Vai, ma quando trovate il tempo di usare queste benedette console portatili? Perché io comincio a pensare che il mio stile di vita non si adatti a queste console, perché io tipo vado al lavoro, ma vado in macchina, guido più o meno un'ora, poi ovviamente sto guidando e non posso giocare, non so, prendete tutto il treno voi. No, io la uso l'iPod soprattutto, io ormai quando vado a cagare vado con l'iPod, poi magari non a giocare, che ne so, leggo un sito qualcosa, però iPod fisso sulla cagata. Giochi mentre caghi. Infatti se compro uno smartphone o l'iPad, a quel punto l'iPod lo lascio proprio sulla mensola del cesso, così sta lì pronto e fine. E no, poi una cosa che faccio a volte, se sto giocando il gioco portatile grosso, tipo non lo so, Metal Gear Solid, è semplicemente mi siedo, cioè è come se stessi giocando con l'Xbox, in quel momento gioco a Metal Gear Solid sulla portatile. E fine è quello, perché poi in realtà in metropolitana o quando aspetto la fermata del tram, ma non c'ho voglia di stare a tirar fuori la PSP impegnativa, piuttosto un giochino del cazzo su iPod, quello sì magari, perché poi è una roba che veramente puoi giocarci anche 30 secondi. E poi ti rimane frizzato in memoria con... sì, tra l'altro, cioè, sì. Anche se lo chiudi. Io, se posso rispondere alla tua domanda, ho la stessa abitudine di Andrea, ovvero portarmi adesso l'iPad al cesso, anche se il peso alla lunga stanca. Comunque al cesso prima di tutto, e poi la sera, quando la casa dorme, o gioco al, insomma, ai giochi per home console, oppure mi metto lì a pastrocchiare, a leggere e a giochicchiare. È sì, quello che manca a me. Ecco anche una cosa. Ma aspetta qualche mese, vedrai che ti arriva. No, tempo. Ma dico, quel poco tempo libero che ho, io comunque, se ho un 360, una PS3 vicino, non mi viene neanche, non mi passa neanche la camera del cervello di prendere il DS. No, però ad esempio... è l'unica console portatile che ho al momento. No, ad esempio una cosa che mi capita di fare, cioè prima di dormire a letto o... viaggio lungo in treno e in aereo, fra le cose, cioè o leggo o magari gioco qualcosa di portatile. No, ok, sì, durante i viaggi lunghi sì, quello sì, il DS magari me lo porto anche. Anche se poi stranamente finisco per leggere o Edge o qualche libro. Che ti dura tutto il viaggio, esatto. No, io per esempio anch'io vado a lavorare in macchina e comunque anche andassi in... coi mezzi non userei mai l'iPad in giro perché avrei paura di trovarmi un coltello nella schiena e non trovare più l'iPad tra le mani. Sì, abbiamo raggiunto un momento in cui si può estrarre l'iPhone abbastanza tranquillamente, secondo me l'iPad ancora no. No, l'iPad, peraltro la cosa scema è che costa molto di meno l'iPad. Quanto è che costa l'iPad 2? Io l'ho pagato 4,79, che è la versione base proprio. Io c'ho questo problema mistico, che in questo momento sto cominciando a sentire la necessità dell'iPad o di qualcosa di simile. Guarda che l'iPad, se lo compri, non usi più nient'altro. No, sto facendo la necessità di quello, e in più mi devo comprare un telefonino nuovo e quindi mi voglio comprare lo smartphone. E non è che siano due spese da poco. No, beh, lo smartphone puoi sempre comprare qualche cosa di Android a prezzo molto basso che funzionano benissimo, se proprio non vuoi lo schermo fichissimo. Ma io lo so, siccome mi conosco, o compro il cellulare da 30 euro o prendo il Samsung Galaxy 2 da 600 euro e quindi sono un momento molto difficile. Ma il mio problema con l'iPad è che ho cominciato a leggere, cioè, per dire, mi sono fatto l'abbonamento a Edge su Zinio, che costa meno della metà che quello cartaceo, lo leggi in digitale e buonanotte. E ce l'hai il giorno che esce. Ce l'hai il giorno che esce, e poi devo dire che quello anche sul computer è comodo, perché tanto sono qua al computer a fare altro, c'ho un attimo, vabbè, mi leggo una recensione su Edge, l'applicazione è figa. Altre cose invece sono solo sul, per dire, GamesTM, c'ha proprio l'applicazione per le iPad, iPod, sì, eccetera, sì, che è Pixel Max, e non c'è la versione PC, quindi lo devi leggere per forza sul coso, e insomma sull'iPod è un po' scomodo. Fra l'altro, quelle merde di Edge, praticamente tutte le riviste che ci sono su Zinio le puoi leggere anche su iPod e iPad. No, Edge no, sì. Sì, Edge trova sempre il modo di tirarsela anche qualsiasi nuovo formato esca, lui lo trova sempre il modo di essere superiori alla massa. Però insomma, tutte queste cose qua, cominciano a uscire giochi magari solo per iPad che mi inzigano, il mio iPod è comunque uno di seconda generazione, qualche gioco fa un po' fatica, mi sta venendo un po' la fregola dell'iPad. Però secondo me, se aspetti fine anno, esce il 3 almeno con retina display, costerà di più sicuramente. Madonna, nel giro di un anno ne lanciano due? Secondo me sì. Guarda che quando mai Apple ha lanciato un oggetto più potente che costa meno dell'anno prima, come ha fatto con l'iPad 2? Dopo però, non fine anno. Cioè, non lo stesso anno. Non è uscito adesso, scusa, l'iPad 2? Sì, è uscito il 25 di marzo. Aspetteranno marzo dell'anno prossimo almeno. Beh, per esempio non hanno aspettato un anno dal primo iPad a questo, in Europa. Hanno aspettato 9 mesi, Beh, ma sul lancio americano però quanto è passato? Sul lancio americano quasi un anno, perché era... No, era... sì, era aprile. Sì, un annetto, giusto, quasi. Sì, sì, sì. Aspetta, sì, allora, apriamo la scheda su Wikipedia, così. Fare dell'editing e far finta che sappiamo di cosa stiamo parlando. No, allora, l'iPad in Europa 1 era uscito... aprile l'1 e ecco, 11 aprile, marzo il 2 in America. Esatto. Quindi sono... E invece in Italia, che è uscito a giugno, mi pare, l'iPad 1, in Europa, noi peraltro siamo stati lo stato di seconda fascia. Beh, va già bene seconda fascia, dai. Sì. No, beh, quest'anno siamo stato di prima fascia dell'Europa. Scusa una cosa, ma l'iPad 2 costa come costava l'iPad una settimana prima che uscisse il 2? Cioè, il prezzo rimane lo stesso? No, è 20 euro di meno. Ah, 20 euro, 20 di, euro meno. Di meno. Sì, sì, sì. Almeno, con la versione Wi-Fi, tutte le versioni Wi-Fi costano 20 euro di meno. Ah, ok. Invece mi pare che quella 3G costi uguale a quella dell'anno scorso, però dato che non l'ho comprato non me ne frega un cazzo. No, perché non so. Ovviamente mentre in altre cose esce il modello nuovo, però puoi ancora comprare quello vecchio, immagino che adesso se vuoi comprarlo ti compri per forza l'iPad 2. Beh, allora, Apple ha smesso di distribuirlo, mi pare, però se lo trovi, l'iPad 1 lo trovi a dei prezzi fantastici. Se non te ne frega un cazzo della fotocamera e del dual core del processore, conviene tantissimo il... No, no, cioè, ma qua per me entra in gioco lo stesso meccanismo del telefono. Se lo compro voglio il 2. Vabbè, conta che, allora, il giorno che hanno annunciato l'iPad 2 coi prezzi, subito l'Apple Store online aveva l'iPad 1 a 120 euro in Europa, a 120 euro in meno di listino, e chi l'ha comprato il giorno prima gli hanno ridato i soldi, o comunque hanno fatto una cosa, beh, che mi sembra proprio una puttanata, cioè quando mai Apple abbassa i prezzi delle proprie cose? E quindi boh, comunque secondo me non aspettano un anno, non scavallano l'anno per il 3, sono abbastanza convinto di questa cosa. Sì, in realtà per me è più urgente il telefono, penso, perché il mio sta cominciando a dare segni di squilibrio, si accende, si spegne, quindi. Comprano da Media World Online, così ti arriva in polacco. Ma quello tedesco poi lo compro, così. Esatto, non so Media Market. Cosa sto Media Market. Sì. Adesso, va bene. No, adesso sono nella fase aspetto che escano i nuovi modelli, quindi... E beh, adesso escono, cioè, infatti, sì. L'LG Dual Core è già uscito, credo, mi sembra. Sì, ma poi ho visto c'è quella roba folle che ha fatto Motorola del cellulare, che lo attacchi al docking, cioè al dock, che è un laptop. Allora, quella, un anno fa, un mio collega mi fa: ma sai Davide che figata, perché parla così, sarebbe avere una specie di solo esoscheletro di computer e tu ci attacchi il cellulare dentro e funziona, minchia. Quando ha visto la foto del Motorola gli è preso un'incazzatura, ha detto, perché sicuramente tu l'avresti brevettato dopo domani, comunque. Certo, sì, sì, sì. Comunque direi che questa discussione sull'hardware possiamo ritenerla conclusa, così. Sì, anche perché siamo finiti a parlare dei cazzi miei, per cui insomma sempre interessante aiutare delle persone a prendere delle scelte di mercato, ecco. Invece parliamo un po' sempre di cazzi tuoi, perché l'altro giorno, cos'è, un mese fa circa, apro Next Game e mi ritrovo un sito completamente diverso. Soprattutto coi voti, che sono sotto forma di stelline da 1 a 5, se non sbaglio. Sì. No? Allora, senza i mezzi voti. A me l'avete avuto quell'accortezza. Quindi non c'è la mezza stellina? Non c'è la mezza stellina. Ok, ma come mai un sito che comunque ha sempre puntato sul fatto che noi non abbiamo il voto, abbiamo solo il commento e andate un po' a fanculo tutti voi che avete i voti? No, scherzo. Nel senso che comunque era un tratto distintivo come me, che avete scelto alla fine di cedere anche voi alla cosa del voto, peraltro... abbastanza tranquilla, nel senso non ci sono i millesimi di millimetro, ecco. Ma posso dire che, come la maggior parte delle cose che facciamo, è stata molto a cazzo. Nel senso che non è che si è deciso, è il momento di mettere i voti, siamo nel 2011, servono Metacritic, oppure l'editore ce l'ha imposto. L'editore ovviamente era contento dei voti perché lo vede come una cosa popolare, ma non è che ce l'hanno detto loro. Peraltro crea discussioni nei forum. Sì, modo. Sì, sì, cioè è una roba positiva, ma tra l'altro a me non dispiace averli. È che, tipo ormai più di un anno fa, quando si è cominciato a parlare del fra un po' cambieremo la grafica, faremo questo e questo, diventeremo videogame.it, perché comunque è scomparso il nome Next. E difatti l'altra cosa che volevo chiederti è quello, è sparito completamente. Beh, ma lì perché, ma era una cosa di cui si parlava già da un sacco di anni, avendo questo dominio videogame.it, che è comunque un nome obiettivamente più immediato e forte, sì. C'era l'idea di vabbè, affanculo Next Game e uniformiamo tutto dentro videogame, che poi è diventata anche quasi casualmente, se vogliamo, anche se non è che non cogliessimo la cosa, simbolico nel momento in cui abbandoniamo Next Game, introduciamo i voti. La cosa dei voti è venuta fuori quasi spontanea, nel senso che poi ci sarà sicuramente chi fa il sorrisino e dice: oh, non è vero, sono tutte cazzate, ha messo i voti perché bisogna metterli. Ma io sto sorridendo. Bravo. Noto delle vene polemiche di cui non sono a conoscenza. No, è che sì, io, è normale, nel senso, tutti pensano di sapere tutto e dico: oh, sai che nella stampa specializzata siamo tutti venduti e corrotti, per esempio. Sì, lo so. E chi dice di non esserlo è parole di facciata. Ma vabbè, ma cioè, comunque. cosa stavo dicendo? Sì, quando abbiamo cominciato a parlare di sta roba, una timida voce, non ricordo chi, ha detto: ma se mettessimo i voti? E c'è stato tipo un plebiscito: ah sì, mettiamo i voti, figata! Ma tutti, cioè, non ricordo veramente nessuno. Con... tipo De Simone, il commissario Ricchio in Belva Umana. E ovviamente poi ognuno col suo motivo, cioè c'era chi faceva proprio il discorso così, si va su Metacritic, dove peraltro non andiamo per il momento perché tipo solo a inizio anno accettano nuove iscrizioni, quindi per un anno ce la pigliamo in culo. Ma lì bisogna essere iscritti, cioè sì, ti chiedono, se ti prendono e loro valutano, solo che la risposta è stata: ormai per quest'anno è andata. Vabbè, grazie. Beh, sono, come si dice, sono veloci nel prendere decisioni, nel modificare il proprio, insomma, duttili. Loro fanno solo a inizio anno. E comunque c'era gente anche invece, cioè io per esempio, a me piace avere i voti, non ci vedo niente contro, e la motivazione, cioè, per carità, la rispetto, la stimo, ma la motivazione non mettiamo i voti perché tolgono importanza al testo, secondo me è una minchiata, perché ma sì, ma perché se tu sei uno che siccome c'è il voto allora non caghi il testo, ma non dai retta al testo comunque, anche senza voto, leggi solo il commento ed è già tanto se leggi quello. E se sei uno a cui invece il testo della recensione interessa, non è che siccome c'è il voto smette di interessarti. No, difatti. Quindi secondo me il voto è una cosa in più, è un modo immediato per comunicare se ti è piaciuto il gioco, e poi fine, poi c'è tutto il resto in ogni caso. A me interessa un'altra cosa piuttosto. Ok, avete deciso di mettere i voti, ma come siete giunti alla conclusione di mettere le 5 stelline? Allora, qua sono colpevole io, cioè ovviamente non l'ho deciso io perché non è che sono l'imperatore, però le stelline le ho proposte io, le ho sostenute fortemente io. E ti dirò di più, noi i voti su Next Game li abbiamo in realtà sempre messi internamente, non dirò con che scala, con che criterio, però abbiamo sempre messi perché comunque sono comodi a livello di archivio interno per far ricerche su, cazzo ne so, i 10 giochi che ci sono piaciuti di più. Mm-hmm. E anche in previsione, metti che un giorno decidiamo di usare i voti, almeno ce li abbiamo già sul database pregresso. È già fatto. Io ho ideato la tabellina di conversione dal metodo che usavamo alle stelline. Come lupo solitario. L'ho proposta, l'hanno accettata, bella. E tra l'altro noi internamente, per non incasinare il database, continuiamo a usare il vecchio metodo e i voti si vengono convertiti automaticamente secondo questa tabellina. In ogni caso, le 5 stelline, io lo proposto, sarà che io leggo un sacco di cinema e nella critica cinematografica sì. Il voto in 5 stelline, cazzetti, cuoricini, sì, sì, è molto usato. Pollici e cose del genere. E a me piace un sacco, lo trovo diretto, riunisce tutto in 5 grosse categorie di massima, fa cagare, è brutto, è medio, è bello, è bellissimo. E fine, poi per la finezza, il un po' meglio questo, un po' meglio quello, leggiti le altre cose e non rompermi i coglioni. Peraltro anche la mia azienda fa le valutazioni di noi poveracci in 5 voti, quindi insomma, no, capisco, cioè, perfettamente. Allora, capisco che sembri magari strano per uno che è abituato, cioè non è una roba che si usa molto nei videogiochi, però in realtà è una roba che si usa molto in molti altri contesti, quindi non è che è campata per aria. No, ma difatti se noti anche Metacritic, il metro che si usa per i videogiochi, cioè quello per i film, è più, se tu guardi i voti, è più rapportabile a macro votoni, sì, perché comunque il film carino va dal 65 all'80, mentre il gioco 65 c'ha giallo rosso, ma è già insomma, è già, sì, bollato come merda. Sicuramente anche Metacritic ha la sua tabellina di conversione. Sì, ce l'ha. Se tutte le riviste di cinema comunque usano la votazione da 0, da 1 a 5, ovviamente Metacritic va da 0 a 100, quindi sicuramente c'hanno la tabellina. Ma fra l'altro questa cosa delle stelline poi manda nel panico, presumo, i PR, perché è vero che magari un gioco a cui daremo, non lo so, 7,5, può essere che gli mettiamo 4 stelle, però è anche... davvero non sono così non abituati alle stelline, perché comunque mi ricordo quando ero ancora in Italia c'era PSM che lo usava. Era comunque da 1 a 5 e poi... Sì, scusa, non stelline magari, comunque però usava c'erano anche mezzi voti. Esatto, per quello hai ragione, sì. Ma sai, ma poi il discorso è che c'è l'opposto di quello che stavo dicendo, cioè un gioco da, che ne so... 89. Allora, tu vedi 3 stelle e 6. Vedi 2 stelle è 4, anche se poi magari il gioco sarebbe da, non lo so, da 59, la percezione questo ha preso 4. È vero. e quindi ovviamente, perché tendi a convertirlo ai valori che di solito usi come impatto e come rompiamo le palle, anche se poi tu gli puoi dire... Alla fine. Come? E che poi è per cui sono i voti che, per cui siamo abituati dai tempi della scuola, alla fine. No, beh, certo, sì. Però qua l'idea appunto è quella delle fasce. Cioè, questo gioco è nell'area bello e poi morta sì, lì. Sì, sì, sì. Comunque mi stupisce che Metacritic Metacritic non vi avesse, o magari non era quella il motivo, non mi avesse accettato prima perché senza i voti, perché comunque Kotaku per esempio i voti non li mette, ma su Metacritic ci finisce lo stesso. Guarda, io tempo fa mi ricordo avevo scritto adesso non mi ricordo, ma si parla di un paio d'anni fa, avevo scritto a Metacritic al tizio che si occupava, avevo chiesto ma anche se non abbiamo i voti ci piacerebbe entrare, bla bla bla. Ha detto, ah sì, può essere, ce l'aveva buttata sul possibilista, però non è adesso, probabilmente ho beccato anche quella volta il momento sbagliato, e poi non se ne è più saputo un cazzo, anche perché nel momento in cui si è deciso che poi avremmo messo i voti era inutile proseguire su quella strada, aspettiamo di avere i voti, e poi ci proponiamo in ritardo, e quindi bisogna aspettare l'anno prossimo. Comunque io sempre, cioè nel senso i voti a me servono, perché per esempio la recensione la leggo quasi sempre del gioco che mi interessa capire, però... Quando ho voglia di qualcosa di, che ne so, di vecchio o di che non mi interessa particolarmente leggere le meccaniche, vado su Metacritic e vedo, ah, allora aveva preso 85 di media, ma sì, compriamo la Play. Cioè, nel senso, se devo comprarmi il gioco così riempitivo, il voto per me è fondamentale perché non leggo assolutamente la recensione. Sì, mentre sì, la recensione la leggo di Crysis, la leggo di Assassin's Creed, la leggo di Shift 2, ma magari di un Time Shift non lo leggo e vedo solo il voto. Ecco. Allora, sul numero nuovo di Edge. Stavo. Cosa? Ah, dicevo, era una buona rettifica. Sì, non oggi, che è uscito tre giorni fa, ieri, non mi ricordo. Comunque, il numero... Un attimo che lo apro sul mio account di Zinio, sul mio Zinio Reader. Non ho abbandonato in questo modo la vile carta, poverina. Sì, sai, tu vai in edicola e lo compri, noi dobbiamo chiamare un attimo. La posta direttamente. Io retro gamer continuo a prenderlo su carta perché c'ho il feticismo. Ma perché con retro gamer danno qualche cosa in più? No, proprio il feticismo della rivista figa, tutto il resto, tanto poi Edge non è che faccia cagare come rivista, come carta. Sì, ma è retro gamer, cioè è proprio sul retro gamer che mi attizza il feticismo, proprio su quella rivista lì. Comunque sul numero di maggio, perché è datato maggio di Edge, c'è un approfondimento sul fatto del perché i videogiocatori si divertono così tanto a uccidere, perché i giochi, praticamente la maggior parte dei giochi, hanno come fulcro del gameplay l'omicidio o comunque l'annientamento dell'avversario. Prendono anche, per esempio, passiamo da Call of Duty a Super Mario, ecco che vabbè, è un parallelo un po' forte, però comunque anche in Super Mario bisogna saltare in testa i nemici e in qualche modo spazzarli via dall'area di gioco, quindi sì, tra l'altro almeno in Call of Duty li ammazzi con un colpo in testa e fine, non li ammazzi saltandogli in faccia. Esatto. Li ammazzi di botte in Super Mario, voglio dire. Comunque vorrei ricordare che per esempio Mario Kart è uno dei giochi più violenti che esistano sulla faccia della terra, sia dentro il gioco sia fuori dal gioco, quando picchi il tuo amico di fianco perché ti ha tirato il guscio rosso all'ultima rampa dell'ultimo giro. Ecco. Vogliamo parlare di Mario Tennis e di che razza di missili tiri addosso quel poveretto contro quei giochi. Difatti, nell'articolo di Edge, in pratica sono stati intervistati vari esponenti di diverse università dove si insegna gameplay e tutte queste cose che qua in Italia ci scordiamo, e diciamo che i due macro argomenti sono l'uccisione nel videogioco tira perché comunque è una cosa atavica dell'essere umano, oppure l'altro piatto da bilancio, ovvero uccidere, creare, disegnare, rappresentare un'uccisione è molto più semplice che rappresentare un dialogo, cioè la vita normale che insomma abbiamo a che fare tutti i giorni, quindi un'interazione diversa. L'omicidio è l'eliminare l'avversario, è una cosa semplice, cioè tu sei un ostacolo, io ti elimino, e questo fa diventare anche challenging la cosa, no? Nel senso che è una sfida che tu superi, cioè è molto più facile creare una serie di sfide con dei nemici che non con dei dialoghi degli amici o cose del genere. Secondo voi, penso... Anche nella realtà, fra l'altro, in linea di massima, quando c'è una crisi è più facile risolverla bombardando. Sì, sì, qualche volta lo si fa, diciamo. La diplomazia arriva sempre un po' dopo, effettivamente. Però effettivamente, secondo me, a parte che ultimamente il numero di giochi dove si uccide si è innalzato esponenzialmente, nel senso che sarà che gli FPS sono ormai una moda consolidata, però veramente... Dissento. Dissenti di questa... È più... Forse si percepisce di più, perché comunque è tutto molto più realistico da vedere, ma cazzo, io da bambino non facevo altro che sparare. Sì, sì, però, allora, è vero, il realismo incide tantissimo, perché un conto se tu spari, che ne so, in Commando, che c'è l'omino che spara ai pazzetti, che ne fai fuori centinaia in una partita di Commando, oppure anche Green Beret. Tutti i picchiaduro che c'erano negli anni Ottanta, cioè io, la mia infanzia è stata costituita da un po' di enigmi da risolvere, tra l'altro in genere sperando di vedere qualche donna nuda nei Laser Suit Larry, e per il resto del tempo sparavo e picchiavo. Sì, però comunque anche la, come dire, la partecipazione visiva, nel senso di avere molta violenza pseudo-fotorealistica... Sì, su questo, per carità. Cioè, da un certo punto di vista, effettivamente... una certa fetta di utenti li allontana, perché se io mi divertivo a sparare ai soldatini in Green Beret, magari non mi diverto a sparare in faccia alle persone in Soldier of Fortune 2, che era stato citato nell'articolo, perché è estremamente violento, eccetera. Però comunque... Beh, ma non a caso ci sono anche tanti giochi di fantascienza dove, come dice giustamente l'articolo, la percepisci come meno violenta la violenza perché spara agli insettoni. Difatti loro fanno la distinzione tra un Soldier of Fortune, appunto, dove peraltro puoi infierire sui cadaveri anche con coltellate, e un Gears of War, cioè che mentre Soldier of Fortune appunto è stato bollato come giocaccio iperviolento, non adatto ai ragazzini, eccetera eccetera, un Gears of War vende 20 milioni di copie e non ha quei problemi di censura, perché comunque spara. Vabbè, ma quello è semplicissimo, scusa, cioè, ok, usi la Sega la motosega, ma sono alieni comunque, no? Infatti, cioè, sì. Anche in Dead Space puoi accanirti sui cadaveri, ma sono delle robe schifose. Anzi, è meglio se ti accanisci, perché non si sa mai che tornino dal mondo dei morti quelli di Dead Space. Sì, non solo, se li fai a pezzi, a pedate, trovi dentro anche i bonus. Sì, che è sempre fantastica sta cosa, cioè tu ammazzi un necromorfo e dentro c'ha un caricatore di proiettili. Che è un po' come nei vecchi GDR che ammazzavi i topi giganti e dentro c'erano le monete. Ma perché ti dà tanta soddisfazione? Perché quell'animazione è semplicemente stupenda. Ah, tu dici una cosa estetica. Ma è il suono? L'animazione, cioè, perché a me nei first person shooter mi piace tanto andarci di colpo la testa? Vuoi perché è comunque più difficile, ma il fulcro della questione, secondo me, è che la realizzazione tecnica ti dà così tanta più soddisfazione un colpo alla testa che un colpo alla gamba, fai conto? Se mi facessero un colpo alla gamba che mi esplode mezza gamba e il colpo alla testa fosse una cavolatina di 2 pixel di sangue che escono, io continuerei alla gamba. Lo stesso motivo per cui i 5 minuti iniziali di The Expendables erano perfetti. Perché vedi questo... Come si chiama? Dolph, Ivan Drago. Sì, Dolph. Che tira fuori il cannone a mano e stacca metà del corpo del povero sfigato. Ed è una cosa, cioè, la realizzazione tecnica bellissima. Cioè, io magari sono malato mentale. Per essere uno che gioca coi pupazzi sei abbastanza iperviolento. Però, scusa, se l'animazione della testa e quella della gamba sono fighe uguali, spari di più alla testa o alla gamba? Non lo so, forse alla testa. In modo inconscio mi farebbe più male, ovviamente, ricevere un colpo alla testa. Quindi mi farebbe... ci sarebbe il cringe factor, sarebbe più forte. Secondo me è come ti approccia il gioco. Nel senso, se tu vuoi fare il cecchino spari alla testa, se tu vuoi fare il sadico che gambizza le persone spari alla gamba. Secondo me... Sicuramente, se ci fosse un'animazione che segue di lui che zoppica realisticamente, ha voglia di essere per la gamba, Andrea, perché mio Dio. Mi trae una certa soddisfazione, ovviamente una soddisfazione ovviamente professionale, intendiamoci, cioè di vedere dove la tecnica sta andando in questi certo, anni, certo. Cioè, l'evoluzione dal ragdoll all'Euphoria Engine, quello che sarà dopo, cioè sono belle soddisfazioni. Diciamo che la gravity gun in Half-Life 2, quando prendi le seghe circolari e fai, esatto, a pezzi la gente, insomma. Esatto, io andavo indietro di 3-4 stanze perché mi ricordavo che avevo lasciato la sega da qualche parte, giusto per usarla per il prossimo mal capitato. Tra l'altro in Dead Space 2, esattamente come nell'1, ci sono due punti dove se ti stai portando dietro qualcosa con la telecinesi c'è la congiunzione di caricamento e ti scompare. Tra l'altro, realista. Dead Space è il primo gioco che io mi ricordi che mi ha dato una validissima alternativa al headshot, al colpo alla testa. Io mi divertivo molto di più a recidere Ah, vabbè che dovevo farlo per forza, ma... Sì, cioè non serviva niente in Dead Space il colpo alla testa. Era una situazione incredibile, anche soltanto il fatto di poter ruotare la mira della pistola faceva quel suono così piacevole alle orecchie. Però io ruotando il coso senza un motivo, soltanto perché però vedi, per darti questa soddisfazione hanno dovuto rendere completamente inutile il colpo alla testa. Perché in Dead Space non serve a niente. Hanno dovuto rendere inutile completamente anche il colpo violento a breve distanza. Cioè proprio... Perché secondo me è stata una cosa positiva. Finalmente non devo sparare la testa, anzi, probabilmente è ancora più difficile, devo concentrarmi e allineare il colpo alle braccia, che poi esplodevano in modo bellissimo. ma fra l'altro, cioè, in un gioco in cui, ipotizzo, il cattivo... anche umano, cioè, insomma, è veramente stronzo, arriva alla fine che lo odi, lo vuoi far fuori, ma avere la possibilità di fare la scena figa da film, che gli spari al ginocchio, casca per terra, cerca di prendere la pistola, gli spari alla mano, poi gli metti il piede sulla ferita, questa cosa qua. Sì, e quella ti dà soddisfazione se chiunque sta sviluppando il gioco rende il colpo alla mano soddisfacente. Sì, sì. No, più che altro il gioco deve portarti a quella cosa lì, perché se no tu fai tu il sviluppatore fai un lavoro della Madonna per fare la scena che tu puoi fare, poi ti spara un colpo in testa, punto. Sì, e vedi le colombe bianche dietro che volano. Ma fare tutti i giochi col sistema di Bushido Blade. Mica, Bushido Blade era quello. Ma tutti i giochi, anche i giochi di calcio, scusa. Tipo. Che se fai un fallo, come fai a applicare il teorema del Bushido Blade a un gioco di calcio? Beh, se fai un fallo troppo pesante, gambizzi quel poveraccio che è fuori per tutta la stagione. Basta usare Balotelli, facilissimo. No, però comunque non inquietante, però è particolare che tantissimi giochi, anche quelli pupazzosi, comunque si basino sull'eliminazione del nemico e praticamente sono i puzzle game, non, neanche tutti peraltro. Sì, ci sono puzzle game in cui invece comunque fai del male al prossimo. Sì, esatto. Ma c'ha ragione. Cioè, tipo Angry Birds. Ma alla fine è sempre il solito problema, cioè che sono le cose, cioè l'azione è la cosa semplice da fare in un videogioco, semplice tra virgolette perché poi la devi far bene, però è la cosa più ovvia sia da capire per chi deve giocare, sia da fare per chi la crea, penso, e poi non è che io sia uno che li crea i videogiochi, e mentre invece creare sistemi diversi in cui puoi interagire facendo altre cose non è semplice. Alla fine le soluzioni che sono state trovate fino adesso per fare cose diverse sono o il punta e clicca o il quick time event, le cose alla via. Da questo punto di vista sono, da molti punti di vista, sto aspettando con molta ansia L.A. Noire, perché secondo me quello potrebbe cambiare molte cose. Comunque, non so se è una cosa che posso dire, ma tanto al massimo la taglio. Ma penso di sì, perché poi alla fine, cioè, sono uscite le anteprime. Io non l'ho mai visto in funzione. Gente con cui ho parlato che l'ha visto dice che è una figata il sistema di dialogo, bellissimo, però Madonna, le sparatorie fanno cagare. Ma meglio. Cazzo, non vedo l'ora, tra Portal 2 e quell'altro sono i due giochi che aspetto di più. Portal 2 è una, cioè veramente ci ho giocato un quarto d'ora proprio all'inizio ed è una figata, ma il tutorial è una figata, il tutorial, cioè, ti prende, fa ammazzare dal ridere. Non so, paura di quel gioco. Come? Io ho paura di quel gioco perché il primo l'ho adorato, ma mi ha fatto sentire stupido dentro. No, voi ci vedete, io mi sono sentito tipo con Braid, è la stessa cosa che avevo sentito con Braid, che comunque mi sono dato la soddisfazione e alla fine l'ho finito senza aiuti esterni. Minchia. Cioè, scusate, l'ho finito quello normale, poi ho scoperto anni dopo che c'erano le stelle da qualche parte. No, però le gioco stelle normale, no, però i pezzi di puzzle alla fine. Quello l'ho finito da solo, però mi ha fatto sentire stupido dentro, tanto quanto Portal. Però Portal, come Braid adesso, è un gioco che mi ha dato... Per esempio, anche Portal non è che ammazzi nessuno, delle soddisfazioni incredibili. È l'unico altro, cioè alla fine effettivamente se vai a vedere, tolti vabbè i giochi sportivi di guida così, nei giochi tra virgolette avventurosi sono quelle le due cose: o fai l'azione, corri, spara, salta, picchia, o fai l'enigma. Sì. Beh, Portal da quel punto di vista lì è veramente una genialata estrema. Portal è fantastico. Cioè, ma chi gli sarebbe mai venuto in mente di fare un puzzle game un FPS che dici, ma non sparo, cosa fai? Cioè, è geniale questa cosa, un FPS che è un puzzle game, che comunque adesso io ho visto solo i filmati di Portal 2 con la cooperazione dell'altro che spara tutti i tuffi, l'altro ti cambia i portali in tempo reale. No, è fantastica, cioè, anche la coop. Allucinante, eh? Infatti. Però lì non ammazzi nessuno, anche se c'è una violenza di fondo terrificante, almeno nel primo. Beh, puoi comunque far, cioè in cooperativa puoi ammazzare il tuo, ma è che poi non muore, perché... però lo puoi far cadere nella lava e robe del genere. Sì, oltretutto nella cooperativa di Portal 2 mi sembra di capire, cioè lì ti devi fidare ciecamente dell'altro, perché Sì, ma poi la cosa bella è che hanno creato questo, ovviamente puoi parlarti, ma c'è un sistema molto comodo per comunicare, tipo che tu tagghi il muro nel punto in cui lui deve mettere il portale, cose del genere, che è figo, funziona benissimo, invece di stare a dire mettilo là, no un po' più là, no un po' più là. Senti, comunque parliamo dei puzzle, però no, più che altro aspetta che questa cosa, se esco prima di martedì non posso metterla, quindi aspettiamo. No, queste cose sì, perché io i Portal ho giocato solo le cose da anteprima e sono articoli che sono già usciti. Ok, perfetto, allora niente, scusa Paolo. No, figurati, pensavo che sì, i puzzle, come hai detto, sono un'alternativa alla soddisfazione del giocatore tanto quanto le uccisioni, però forse una terza cosa a sé stante potrebbe essere la fisica in sé. Cioè, giochi come tipo Trial HD, sì? Le soddisfazioni li te le togli combattendo, fra virgolette, contro la fisica, che sì, è un po' la stessa cosa che puoi applicare a Portal, che magari nello scheme delle cose lo potete vedere come un puzzle, però sì, cioè io giochi con la fisica, in qualche modo mi trovo intrattenuto, intrattenuto senza uccidere nessuno, ma semplicemente perché sto combattendo contro, tipo quello del pezzo di carne che muore, Super Meat Boy. Super Boy, sì. Non ammazzi nessuno, però scusate, come l'ho detto, è un puzzle anche quello alla fine. Peraltro c'è una violenza inaudita in gioco. Il discorso dell'atto violento come unica cosa, ovviamente... Penso l'articolo sia incentrato sul fatto che alla fine i giochi di maggior successo e quelli più venduti, perché poi c'è, cioè, Call of Duty 20 milioni e comunque in Mario, per quanto non sia un gioco violento, l'azione in sé, se l'analizzi, alla fine è quella, sono i giochi più venduti, ma è normale, perché poi anche penso che a livello di accessibilità è molto più semplice da capire, hai una pistola, spara, rispetto a devi proiettare il portale, devi fare, anche se poi mi dicono che in realtà a me non è, cioè io non ho avuto questo test sul campo, ma mi dicono che amici che hanno fatto giocare porta la gente che non gioca solitamente e ci si è trovata bene. Tra l'altro il 2 in questo dovrebbe essere anche meglio, perché loro hanno, almeno a quanto dicono, poi io ho giocato solo all'inizio, lavorato molto sull'evitare che ci fossero difficoltà, come dire, di manualità. Cioè, perché effettivamente nell'uno c'era magari il salto un po' difficile, la cosa che devi fare veloce, invece il 2 dovrebbe essere veramente solo ragionamento, enigmi. Però il fatto della vera difficoltà di Portal, secondo me, era la manualità, c'era, perché comunque devi fare certi movimenti veloci a tempo, come dire, giusto, perché sennò ovviamente non riuscivi a fare il movimento desiderato. Però il fatto che gente che non ha mai, cioè comunque che non è tanto avvezza ai videogiochi, non si sia trovata fuori luogo in Portal, mi sembra strano. Perché comunque... Invece a me no, perché il nostro problema è che noi videogiocatori non siamo più abituati a ragionare. No, scusa un attimo. Allora, non è che è automatico. Ma scusa, chi muoveva la telecamera a questa persona che non è... Perché io scopro sempre che la telecamera è quello che uccide i non giocatori. Sì. Quello sicuramente, però nell'ottica del capirlo... Perché guarda che un Portal, secondo me, un Braid, ma questa è una cosa che avevo già detto forse in un vecchio tentacolo, ma... uscito 15 anni prima, secondo me tu lo trovavi molto meno difficile di come l'hai trovato, perché giocavamo molti più giochi con quello stile lì, enigma, ragiona, cerca di risolvere, mentre adesso la maggior parte delle robe che giochiamo non ti danno problemi da risolvere, ma proprio per niente, ti guidano per mano. A un tempo i giochi d'azione erano dei cazzo di labirinti, adesso sono dritti, cioè, voglio dire. No, è vero, però anche il fatto spaziale della tridimensionalità, che tu salti da un bordo, spari il portale, finisci nel portale e vieni catapultato invece che in verticale in orizzontale, quindi cambi traiettoria, cioè quello per una persona che oltretutto deve anche imparare a gestire il doppio stick, cioè non mi sembra una cosa così semplice. No, è vero. Però magari, sai, c'è questa barriera qua, però anche nell'ottica del to, lo gioco io, ma dimmi tu cosa fare, così ti tolgo il limite del... Non sì, lì non devi, non devi avere lo skill del, di quello che sa ammazzare, cioè nel senso, esatto, comunque sì, uccidere la gente ci vuole prendere la mira, insomma, è più... Sì, è vero, hai ragione, sì, sì, sì. E comunque da questo punto di vista consiglio la versione Flash di Portal, che non so se l'ha fatta Valve, ma è bellissima. Se voi cercate Portal Flash, è in 2D ed è fantastica. Quindi vabbè, fatelo. E, no, molto bella. Paolo, tutto bene? Sì, sì. E, no, Paolo sta pensando che forse anche 20 anni fa avrebbe trovato difficile Braid. Beh, Braid è complicato. Io non l'ho finito, io sono devo ancora fare finire l'ultimo mondo. Cioè, sì, mi mancano due schemi per l'ultimo mondo. No, no, è che a me agghiaccia sempre quando mi ritrovo davanti a un'avventura grafica che a 15 anni risolvevo senza problemi, adesso mi sembra difficilissima. E quindi... Ma lì sì, è vero, ci siamo un po' imbolsiti. Ho perso il pensiero laterale. È rimasto lì di lato, noi siamo andati. Comunque io cos'era, avevo scaricato su Virtual Console del Wii uno sparatutto per PC Engine, non mi ricordo, comunque erano anche proprio difficili a livello manuale i giochi, cioè veramente... io però invece in quel senso trovo sarà che magari facendolo per lavoro continuo a giocare, però invece io sui giochi quelli arcade scopro che cose che trovavo difficilissime da ragazzetto adesso mi risultano molto più semplici. Per esempio, un cioè, sono diventato più bravo e più stupido. dipende anche dal livello di difficoltà che la sala giochi impostava, però. No, però il gioco su Super NES, per dire, lo stesso gioco rigiocato adesso lo trovo più facile. Io tipo, per esempio, Thunder Force 4 che avevo finito, non dico facilmente, però avevo finito, adesso lo trovo ostico, forse perché mi annoi, boh, non lo so, comunque. Comunque, sempre parlando un po' di roba vecchia, veniamo all'ultimo argomento di questa puntata, ovvero, io taglierei un pezzo della domanda, comunque questa voglia di remake tra Tomb Raider Trilogy, God of War in HD, Prince of Persia in HD, il futuro Ico e Shadow of the Colossus, Splinter Cell, insomma... Facciamo veramente l'operazione nostalgia e... Tipo, io per esempio ho preso God of War in HD, no? La raccolta dei primi due, ma non li giocherò mai. Cioè, nel senso, ho ricominciato a giocare il secondo, dopo mezz'ora ho detto, vabbè, gioco il terzo, perché è il periodo che mi ero comprato il terzo. Cioè, secondo voi, gli acquirenti di questi giochi, insomma, raccolte, lo fanno più per Amarcord, perché hanno voglia di perché rigiocano veramente i titoli, o perché o è gente che non ha mai giocato e dici, ma sì, diamogli un occhio a questa, insomma, saga fichissima che non ho mai giocato perché ero troppo piccolo e stronzo? Io nomino Andrea. Secondo me è un misto di tutte le cose che hai detto, nel senso che io, per dire... qualche gioco dell'era PS2 che magari mi sono perso e sono curioso di giocare, se invece di dover tirare fuori la PS2 oppure pregare che vada bene sulla PS3 retrocompatibile ma che non è più aggiornata, o preferisco avercelo magari già scalato in HD e che sono sicuro che mi funziona bene su PS3 senza sbattimenti, però quello sicuramente. Lo vedo un po' meno sensato nell'ottica in cui magari esiste, non lo so, la Atari Collection. Perché la Atari Collection, cioè il meccanismo è lo stesso, la nostalgia per il gioco vecchio, però l'Atari Collection sono giochini che puoi anche dire lo metto dentro e ci gioco 5 minuti. God of War, se lo metti dentro è perché lo vuoi giocare dall'inizio alla fine, non è che ci fa una partita da 5 minuti ogni tanto. Sì, secondo me in realtà chi veramente è difficile che compri queste cose è quello che non le ha mai giocate, cioè nel senso il ragazzetto che adesso si avvicina alle console difficilmente va a prendere uno Splinter, cioè è più facile che gente come me che ha già giocato uno Splinter Cell dica minchia, ma sì, me lo rigioco in HD perché così è fico, boh. È vero, però magari chi non è troppo addentro l'aspetto tecnico, la super grafica eccetera, secondo me può anche essere che gioca God of War 3 e dice, ah, oh, vabbè, dai, vediamo come erano l'1 e il 2, e vabbè, oh, è peggio la grafica, oh, però figata, si scopa. Oh. Ma si gioca meglio, il gioco è fatto meglio. Cioè, secondo me non è completamente folle, è vero che non funziona come per i... cioè, non funziona come per i film, nel senso che un film comunque di non lo so, 6 anni fa, non è brutto da vedere come è brutto da vedere adesso un gioco di 6 anni fa, però non è neanche come vedersi il King Kong del 33, ci può stare. Sì, beh, però con i film oltretutto è anche diverso, perché il film vecchio, tu tipo il Metropolis di Fritz Lang, lo apprezzi anche perché è una cosa di quel genere lì, cioè non ti viene da dire minchia che la grafica di, che immagine di merda in bianco e nero. Però, devi essere uno un po' appassionato di cinema, cioè secondo me il ragazzetto gli fa vedere Metropolis e gli viene un attacco epilettico e vale lo stesso alla fine con i videogiochi, perché secondo me a Galaga oggi ci giochi o se sei un appassionato allora c'hai il gusto per il vintage, oppure anche magari non sei un appassionato ma c'hai quel momento nostalgico, allora te lo giochi un po' sull'iPhone. Sì, però uno normale che gioca a God of War gli fai vedere Pac-Man, che cazzo vuoi? Girus, che peraltro Girus al suo tempo era veramente il massimo della grafica che c'è. Vabbè. Ma che poi vabbè, qua c'è anche sempre il fatto che la grafica 2D secondo me comunque invecchia meglio. Sì, sì, cioè, fa cagare, però sì, c'è comunque quel fascino che invece Wing Commander 4 fa schifo. E quando è uscito era oh, che figo, è bellissimo. Beh, prendi un Toshinden come, insomma, che quando è uscito si è beccato voti fuori dalla grazia di Dio sopra il 100. No, ma ci beccò 105 sul 105. Game Power. Sì, sì, sì, se lo ricordo. E poi, cioè, adesso invece tu guardi uno Street Fighter 2 e comunque fa ancora la sua porca figura, cioè su Super, sì, NES riesce a giocare. Soprattutto poi magari se lo giochi appunto sull'iPhone, sulla console portatile, cioè non sul 50, sì, pollici, certo, insomma. Capisco di meno mettere un Tomb Raider Trilogy dove uno dei tre giochi è già uscito per le console in HD, quindi boh, vabbè. Oltretutto manco hanno fatto lo sforzo di metterci quei due DLC che erano usciti solo su 360. Ah sì, del... ah, non li hanno messi? No. Beh, magari perché non li avevano proprio fatti in versione PS3 e quindi ah, vaffanculo. Paolo, stai dicendo qualcosa? No, io ovviamente ho un problema a proposito, che premesso che Ico e Shadow of the Colossus sicuramente me li compro, so già che me li compro per poi fare restare lì, ma non è un fatto di nostalgia, è un fatto che io trovo difficile rigiocare un gioco. Sì, a differenza di un film, ma invece come tipo un libro... Come per un libro io non mi trovo nella mia spontaneità mai a pensare ah cavolo, mi piacerebbe rigiocare Vagrant Story, eppure Vagrant Story me lo sono comprato su PS3 giusto in caso ci sia l'apocalisse domani o mi trovi in un'isola deserta, a quel punto sì, magari ci siamo andati vicini ultimamente, esatto, magari quello me lo gioco pure in quella situazione, ma nella mia giornata normale non mi verrebbe mai e poi mai voglia. Forse, non so, un film sì, perché il film è passivo, quindi... Cioè, beh, ma poi il film dura due ore, va a Grand Story. Esatto, esatto. Secondo me è quello il punto focale. Beh, cioè. Ma non, dipende comunque da persona a persona, perché ci sono gli appassionatissimi che si sono giocati, non lo so, 8 volte Final Fantasy VII. Sì, sì, io l'ho giocato. Era a proposito di giocarsi giochi, finalmente ho giocato recentemente Heavy Rain, o per dirla come Davide, o un australiano Heavy Rain, che l'ho trovata con la pronuncia, ed è un gioco che, a dispetto di tutte le mie aspettative, infatti devo fare le mie scuse al signor David Cage, che nella puntata con Pierpaolo gli avevo dato l'Oscar di peggior gioco, sì, sulla fiducia, mi è piaciuto, e mi è passato per l'anticamera del cervello di rigiocarlo, infatti me l'ho fatto prestare, me lo sono poi comprato, però non l'ho ancora fatto, eppure avevo voglia di vedere, perché comunque immagino ci siano diversi finali diversi. Diversi, ce n'è una trentina, cioè, impressionante. Eppure, sì, neanche un gioco così corto, e così che si presti così bene a questo mio esperimento, non ci sono riuscito. È proprio una cosa che non riesco... Sai cos'è anche? Cerco di elaborare questa cosa. Il fatto è che se tu ti rileggi un libro o ti riguardi un film, è perché è una roba che ti è piaciuta in una maniera notevole, suppongo. Cioè, ah, questo film è una figata, magari non lo vedi da qualche anno, me lo rivedo, oppure lo vedi perché lo vuoi vedere assieme a un'altra persona che non l'ha mai visto, insomma, queste, sì, cose qua. Un gioco, innanzitutto... Non c'è l'elemento, lo rivedo insieme a una persona che non l'ha mai visto, però non c'è neanche coi libri. Ma tendenzialmente un gioco, se ti è piaciuto tantissimo, se è per questioni di gameplay, è molto probabile che ce ne sia uno uscito dopo, che non hai ancora giocato, che fa le stesse cose meglio. Sì, quello è vero. A parte casi rarissimi. può essere che ci sia quello che ti è piaciuto tantissimo per la trama, però alla fine poi magari ti sono piaciuti quella mezz'oretta qua e 10 minuti qua di trama, e fra una mezz'oretta e un 10 minuti devi anche rifarti quelle 2-3 ore di gameplay, due palle, ma io Final Fantasy VII me lo rigioco anche se mi posso rigiocare solo quella mezz'ora di storia invece che quelle 40 ore di combattimento. Ma se durava mezz'ora solo l'animazione della magia dei cavalieri della tavola rotonda, cazzo. Però tendenzialmente se tu rileggi o riguardi una cosa è perché ti piace il racconto. Sì, è vero. E in un videogioco secondo me è tosta che... cioè, boh, non lo so. Io poi sono estremista, io è veramente difficile che rilegga un libro, anche per dire. Mentre magari... io mettevo i libri nella stessa categoria dei videogiochi, non rileggerei un libro. Ma perché poi sono cose... cioè il film può capitare di più, perché comunque è una roba che mi piglia un paio d'ore. Sì, poi puoi rimanere un po' più passivo, cioè anche il libro comunque devi fare quello, non è che puoi cazzeggiare durante, insomma, cioè non è che lo puoi vedere leggere di striscio perché fai qualcos'altro sul computer, no, devi leggere. Beh, però ad esempio da ragazzino ho giocato e rigiocato un sacco di giochi, un po' perché magari avevo accesso a meno giochi, ma anche perché li finivo in un'ora o due. Cioè, figa, io rigiocarmi un gioco da 10 ore, ma... no, mai più, basta. Già quelli nuovi, 10 ore sono troppe. Però, ripeto, è questione che cambia da persona a persona, perché per esempio c'è chi si è giocato a Dead Space 3 volte per provare tutti i livelli di difficoltà e ci si è divertito. Quelli che hanno finito 5-6 volte Mass Effect 2. Sì, cioè... vabbè, ma giustamente ognuno vive le cose a sua maniera. Io faccio fatica a rileggere un libro, figurati se mi rigioco un gioco. Bene, e direi che possiamo aver concluso anche questo argomento. Ma di cos'è che stavamo parlando? Non lo so. Dei giochi vecchi rimasterizzati in HD. Comunque, secondo me, uno Splinter Cell me lo compro. C'è da dire una cosa su queste raccolte, che non è solo il fatto... è meno come Good Old Games, voglio giocare un gioco vecchio, è meno sbattimento giocarlo così, perché ad esempio Good Old Games a me è capitato di comprare giochi che avevo scatolati, ma piuttosto dello sbattimento di far funzionare un gioco di 10 anni fa, spendo $5. E anche il fatto che magari, per esempio, è il caso di Shadow of the Colossus su PS2 rallentava, magari questa versione non lo fa. No, ecco, Shadow of the Colossus, che per me è un gioco tra i migliori che abbia mai giocato, perché mi ha preso tantissimo. Temo che se lo rigioco mi parrà una cazzata, purtroppo. Però non credo, perché comunque le parti alla Shadow of the Colossus di Castlevania, l'ultimo, mi hanno fatto godere, quindi evidentemente il metodo mi piace ancora. Ma magari il fascino della prima volta, una volta che l'hai... quello sicuramente, anche perché comunque la storia, per quanto non fosse mai narrata, però è bellissima, quindi evidentemente perdendo quella cosa lì, insomma. Però effettivamente vederlo nello splendore grafico che sarebbe dovuto essere mi intriga la cosa, se lo fanno bene veramente. Quindi, vorrei solo citare, in chiusura di queste news, questa discussione, un post che ho letto su un forum bellissimo, non tanto per per il post in sé, che vabbè, ma perché quella persona che scrive sta parlando di Dragon Age 2. Raga, volevo fare una riflessione personale per quanto riguarda il gioco. Non so, forse sarà la prima volta che ci gioco, forse al fatto che mi devo abituare, ma trovo il gioco in sé per sé un po' monotono, almeno per il primo quarto d'ora. Cioè, stiamo parlando di Dragon Age 2 che dura 120 ore. Cioè, mi spiego, tu vai lì contro i tuoi nemici, spingi solo A e la B per il colpo potente, ma mi sembra un po' fatto a caso. Tu stai lì a spingere questi due tasti senza sentirti padrone della situazione, poi c'è questo menu tattico spingendo LT che almeno all'inizio serve a ben poco. Boh, non so, sinceramente mi aspettavo di più. Voi che ne pensate? Avete qualche consiglio? Ho una delusione! Allora, cioè... ha troppo ragione, comunque. Esatto, io concordo appieno, soprattutto sulle virgole. Sì, però magari dopo 5 ore puoi scrivere una cosa del genere, dopo un quarto d'ora non credo neanche finisca il full motion iniziale in un quarto d'ora. Sì, effettivamente. Però guarda che a me Dragon Age 2 ci ho giocato mezz'ora, ma ha dato proprio quell'impressione, cioè come i combattimenti di Baldur's Gate, che a me faceva impazzire, mi piaceva Baldur's Gate, figata, però mi faceva impazzire che io cliccavo e poi vedevo questi due tizi che agitavano la spada a caso e ogni tanto l'hai colpito. Era il gioco, cioè il fatto che c'è la regola del gioco di ruolo, ci sono le percentuali di hit, not hit. Ma Dragon Age 2 è la stessa cosa più stronza. Tu stai controllando col pad, quindi ti aspetti che funzioni come Devil May Cry, come God of War, schiacci il tasto e gli tiro la mazzata in faccia. Invece schiacci il tasto e forse lo cioè c'è comunque quell'effetto da non sta succedendo esattamente quello. Capito, però posso capire Baldur's Gate, che comunque non dico che fosse proprio il primo, però comunque ha segnato, questo è il secondo capitolo di una saga, tra l'altro l'altro gioco anche quello durava 120 ore, cioè un minimo di rapportarti al gioco potresti fare lo sforzo, eh. Ma è la generazione Apple, i giochi da 20 secondi, dei giochini, come dice qualcuno. Esatto. Support qualify. Vado io con i giochi giocati? Parto io? Qualcun altro dei giochi giocati? E tu hai giocato Heavy Rain? Io ho giocato Heavy Rain. E poi che altro ho giocato? Sto giocando Mass Effect. E ti dirai, ma Mass Effect 2? No, Mass Effect 1. Dai, quasi mi raggiungi allora. Perché io però una cosa che ho notato e mi ha lasciato un po' di stucco è sono basito, comunque non mi capacito di come BioWare possa produrre un gioco qualitativamente di un certo livello come Mass Effect 1 addirittura, sì, e poi uscirsene con un gioco di qualità di Dragon Age 2 che, a meno stando alla demo che ho giocato, è su un livello totalmente inferiore. Quindi mi viene a pensare che a BioWare hanno un team A, un team B. Tu parli di tecnica? Di roba parlo di valore di produzione in generale, cioè tipo character design, animazioni, sonoro, doppiaggio, anche la scrittura stessa della qualità dei testi. A me mi dà proprio la chiara impressione che ci sia un team coi controcoglioni a BioWare, e quello che si occupa di Mass Effect, e poi c'è il team dei, non dico del team B, ma li fa sembrare un attimo gli scaccioli. Però oggettivamente mi sembra che ci sia una discrepanza addirittura di qualità abbastanza abissale proprio. Io ho una mia teoria su questa cosa. Prego. Che con Dragon Age loro tanto puntavano alla gente che basta che gli metti 80 ore di combattimenti dentro grotte e oh, questo gioco è una figata, è profondo e ricco, e quindi l'hanno fatto fare al lavacessi. Invece Mass Effect puntano anche agli altri, quindi oh, grafica figa, spara tutto, dei dialoghi interessanti, si scopa. però la gente che scopa mettiamola anche in Dragon Age. Scusa, si scopa gente con le tutine in latex in Mass Effect 2. Il problema è che c'era Kevin Levine, quello di Bioshock, che comparava le scene di sesso. Molto, immagino si riferisse a Dragon Age, non l'ha mai detto espressamente, alla scena di sesso di Team America con le mani dritte. E lui mi sono buttato via perché ha troppo ragione quell'uomo. Sì, ha ragionissima. Cioè, ma è proprio ridicolo. Beh, comunque con Dragon Age 2 è andato tutto a puttane perché hanno provato a fare il gioco che piace anche agli altri, ma è brutto come l'uno di grafica e tutto il resto, quindi. Mi è piaciuto ad Andrea Dragon Age 2. No, ma non li ho giocati, parlo assolutamente solo per pregiudizio. Per cui e con estrema cattiveria. Che è una delle cose, tra l'altro, è uscito dal sondaggio in cui la gente odia che noi sbologniamo i giochi non avendoli giocati. Sì, era una delle poche critiche, effettivamente. No, ma attenzione, io sto facendo il processo alle intenzioni a BioWare, poi magari lo gioco e mi piace. Ma io te lo appoggio con tutto me stesso. che scena raccapricciante. No, invece, allora, parlaci un attimo, insomma, Heavy Rain. Come cazzo si dice Heavy Rain? Se sei australiano dici Heavy Rain, se sei da altre parti del mondo dici Heavy Rain. Heavy Rain, scusa. Ma va benissimo anche Heavy Rain, tranquillo, era... Però mi stupiva il fatto che magari hai parenti in Australia o ti sei ascoltato qualche review di giornalista australiano. No, anche. Io Heavy Rain parto da un sacco di pregiudizi contro il povero David Cage, perché io Fahrenheit mi ha indisposto proprio, non soltanto non mi è piaciuto, ma è proprio indisposto come gioco. E ho un problema, e ce l'ho tuttora, nonostante non possa non dire che non mi è piaciuto Heavy Rain, con la sua concezione di cosa sia giusto introdurre per quanto riguarda le meccaniche di gioco. La sua idea di divertimento ludico non combacia minimamente con quella che ho io. Cioè, io per divertirmi voglio avere il controllo del personaggio. Io se devo muovermi al giro voglio usare la levetta, se la premo in più deve aumentare la velocità, non devo pigiare premere un altro bottone per farla andare più veloce o addirittura, non so... Ma soprattutto chi sostiene che Heavy Rain è un glorified quick time event ha perfettamente ragione. Al di là di questo, il gioco comunque ha funzionato su di me perché a livello narrativo finalmente ho visto del gran potenziale. si vede che chiunque gli ha aiutato i testi rispetto a Fahrenheit aveva i controcoglioni, magari gli ha dato qualche sberla metaforicamente parlando. Lui sostiene di aver scritto tutto lui, eh? Boh, allora gli ha dato le sberle dopo Fahrenheit, e quando si è messo a scrivere Heavy Rain si è portato tutto il bagaglio di... Secondo me si vede perfettamente che l'ha scritto la stessa persona, solo che stavolta non ci ha messo le cazzate alla fine. Però il modo in cui tratta i personaggi femminili, per esempio, è esattamente lo stesso. Sì. Le troie che stanno lì solo per fare la scena di sesso. Esatto, hai perfettamente ragione. Tanti amici ci facciamo con questa puntata, meno male che ci ascoltano in po'. A che serve Madison? Serve solo per chiavare. Effettivamente... Scusate, mi sto intromettendo, parla tu. Però per esempio Madison è... ci sono stati momenti, non preciso, non quando era nuda, ci tengo a precisare, ci sono stati momenti in cui mi stava cascando la mascella da quanto era resa bene graficamente l'ambientazione e lei. Non so se era per il lighting o comunque qualcosa di... C'erano alcune scene in cui ovviamente l'Uncanny Valley non la toccava minimamente, però c'erano alcune scene in cui, magari la telecamera era più lontana, il personaggio di Madison è quello che mi aveva lasciato basito, nel senso, oh cavolo, quasi non mi sembra di giocare a un videogioco. Chissà come mai tra lei e il ciccione. Sarà un caso se è lei quella che è venuta esatto. Meglio. A livello di scrittura, che è quello che inevitabilmente a me interessa di più, da scrittore fallito quale sono, ha fatto dei passi da gigante notevoli, personaggi erano quasi tutti credibili, a parte il fatto che non sto a fare lo spoiler, a parte il fatto che ci hanno insultato di nuovo, perché io ho detto una cosa appunto da scorsa. Li odio, ci mancherebbe altro. Il twist finale funziona e non funziona, però è comunque un twist finale che non mi aspettavo, quindi sul mio libretto di buoni e cattivi lo finisce nei buoni, perché non me l'aspettavo. E quindi sì, mi trovo quasi in imbarazzo ad ammettere che aspetto il suo prossimo progetto con ansia. Perché mi ha stupito quanto si è riuscito a migliorare in termini di narrazione. Magari ci sono anche trovate, e nella marea di meccaniche di gioco che io detesto, questo fatto di dover pigiare e schiacciare i bottoni che accompagnano lo schermo, ci sono delle trovate davvero fighe. Quando il detective... Spoiler! No, è una cosa che c'è anche nel manuale di gioco, quando usa questa interfaccia di simile realtà virtuale... Sì. Anche soltanto da un punto di vista grafico, hanno optato per delle opzioni davvero d'impatto che non mi sarei mai aspettato. Anche soltanto c'è, ora non so se è uno spoiler, quindi no, c'è il passatempo del detective che usa gli occhiali per passare il tempo con un minigioco, diciamo. Quello mi ha aperto un po' gli occhi, perché comunque è una cosa che non ci avevo mai pensato prima, ma è una cosa interessantissima e potrebbe anche un giorno accadere. Non so se da chi l'ha fregata quell'idea, però mi ci vedo un giorno magari non una cosa grande come un'evoluzione dei videogiochi, però è una cosa che mi ha lasciato un po' stupito, perché non mi aspettavo di trovarla in un gioco di David Cage, perché come dicevo io partivo prevenuto e sono contento che molte delle mie nei miei problemi con lui sono stati risolti, e mi è piaciuto così tanto che poi ho sborsato soldi per comprarlo, nonostante me l'avessero prestato e avrei potuto lasciare lì dove era. C'è da dire che stanno cominciando ad arrivare i giochi un po' figli di Heavy Rain, tipo Jurassic Park sembra la versione stupida di Heavy Rain. Sì, cioè, vabbè, lascia stare che questi non sono capaci. Ma quello di Telltale? Sì. Vabbè, graficamente è inguardabile, e che è un problema con Jurassic Park, perché non è Monkey Island, ti aspetti. Esatto. Ma al di là di quello è un Heavy Rain molto più limitato, cioè lì veramente è il Quick Time Event, perché in Heavy Rain sì, è vero, il sistema di controllo è da Quick Time Event, però comunque non sempre, ma nella maggior parte dei casi sei in una situazione in cui alla fine puoi decidere se fare così o cos'ha. In Jurassic Park è proprio il quick time event. Se sbagli, muori, rifai. No, poi Heavy Rain ha il fatto che è un quick time event unico, ma c'è, se ti fai prendere dalla trama e dai personaggi, ci passi sopra il quick time event, perché comunque il focus lo porti su il drive, insomma su altre cose, sì, quello che non è successo sopra. Con Fahrenheit, esattamente, ma, esatto, ma poi guarda, secondo me per come ho usato in Heavy Rain non per tutto il gioco, però ci sono molti punti in cui in effetti ho pensato che era la soluzione giusta per fare quella cosa. Mi duole ammetterlo, ma ti do ragione. C'è una senza spoiler ancora, ma c'era la sequenza d'azione con Madison, che è una delle prime. Quella dubito che sarebbe stata, l'avrebbe potuto realizzare in nessun altro modo. No, perché lì vedi quello che devi vedere e basta. Cioè, nel senso, c'è la regia, appunto. Esatto. No. Comunque ti è piaciuto alla fine, sono promosso. Sì, ben fatto a Quantic Dream, che hanno tirato fuori un mezzo gioiello, mettiamola così. C'è anche da dire che comunque ho avuto appunto da poco il bambino, quindi comunque la storia del padre in qualche modo mi ha toccato. Però c'è anche da dire che non mi avrebbe toccato se il doppiaggio fosse stato pessimo, se la scrittura fosse stata altrettanto di bassa lega, ecco. Sì, diciamo che hanno tirato su dei temi abbastanza, come dire, basilari per coinvolgere il giocatore, eh? Cioè, non è che parla di oh, mi hanno rubato la macchina. vabbè, ho capito, però cioè, non è neanche, è vero, ma non è neanche giusto se ogni volta che uno tira fuori un tema tra virgolette facile dirgli però il tema è facile, devi anche saper trattare. No, difatti, secondo me, cioè, hanno avuto la forza perché comunque è un tema talmente delicato da un certo punto di vista che se fai la puttanata ti viene proprio fuori la puttanata completa. Invece sono stati molto bravi da quel punto di vista. Tra l'altro, scusa, sul discorso dei giochi un po' figli di Heavy Rain, io mi ricordo, leggevo su Games TM, la rivista inglese, un po' di tempo fa, parlavano appunto di Heavy Rain, i giochi che influenzati, e ci buttavano dentro, ma no, più che, non mi sembra coincidano molto i tempi, anche L.A. Noire. Oddio, uno potrebbe dire che è un po' figlio di Fahrenheit o di qualche idea che c'era in Fahrenheit, che è più vecchio, allora forse in quel modo i tempi potrebbero coincidere di più. Da quant'è che è in sviluppo L.A. Noire? Da un sacco di tempo? Sì. Cioè, io mi ricordo che le primissime volte che se ne è parlato facevo le news su PSM. Io l'ho scoperto recentemente, sinceramente, visti i due trailer ultimi... Cioè, no, beh, sì, veramente... di recente si è iniziato a parlarne tanto, però... No, prima non lo conoscevo proprio. No, ma è da parecchi anni. Poi non so. Però sostenevano che il sistema di dialoghi di L.A. Noire è in qualche modo figlio delle idee di David Cage. D'altronde, cioè, se devi fare un gioco basato su un dialogo e delle emozioni, non è che puoi dare tutta sta libertà al giocatore. Cioè, alla fine, cioè, non è che puoi fargli fare il cazzo che vuole. Devi per forza devi avere una regia. Diventa quasi come un film. Quindi ci sta che, insomma. Beh, ma infatti in Heavy Rain i momenti in cui puoi fare delle scelte, o fai la scelta coerente con la sceneggiatura, o fai delle scelte che però non c'entrano un cazzo con quello che dovrebbero fare quei personaggi. Esatto. In realtà la scelta cioè è quasi obbligata, ma non ti viene, cioè hai il dubbio che tu possa fare tutto il cazzo che vuoi, che puoi farlo, però appunto, come dici tu, vieni messo su un binario che non c'entra niente con il contesto in cui sei. Sì. Vabbè. Vabbè. Bella questa cosa, mi è piaciuta. Comunque, vado io? Vai. Vado io, velocissimamente. Prego. Allora, ho giocato Killzone 3, sto finendo Crysis 2, li metto insieme. Perché, allora, Killzone 3, velocissimo, purtroppo l'hanno Call of Duty-zzato, nel senso che ha perso tutta la parte un po' più tattica di Killzone 2, il peso delle armi, insomma, una certa tipologia che comunque era figlia anche di Killzone 1 su PlayStation, e su PS2. E l'hanno colludiutizzato, quindi sparatoria a manetta, è scriptato in maniera mortale, e il fatto che tu sia costantemente, io ho giocato a livello normale, sia costantemente tutto il gioco sotto il fuoco nemico, che non c'è un cazzo di secondo per pensare, ah, adesso faccio questo. No, tu devi sempre, sai, coprire, una valanga di fuoco, appena smettono, cioè non hai volontà in quel gioco, devi fare esattamente quello che il gioco vuole, se no sei morto, e lo trovi. E questa cosa è palese nella missione stealth, dove sì, la missione stealth, però tu ti immagini che se ti sgamano comunque puoi comunque risolvere la cosa, no? Tra una fucilata da una parte, no, perché arrivano 120 persone e sei morto. Quindi tu rifai la stessa, cioè il vero difetto che c'è anche Call of Duty, che se tu muori 30 volte in un posto ti fai la stessa scena da film 30 volte con il personaggio che esce nello stesso punto, la cosa che esce nello stesso punto, l'altro che ti sgamano, minchia, t'hanno sgamato, sei morto. Allora, cosa che invece in Crysis 2, al contrario, non capita. Cioè, capita in maniera diversa, nel senso che tu puoi fare abbastanza quello che vuoi. Se vuoi l'approccio stealth puoi farlo, se vuoi l'approccio ganassone puoi farlo e comunque puoi sopravvivere. Il problema di Crysis 2 è effettivamente, anche se a me non dà tanto fastidio, un'intelligenza artificiale, cioè dei bachi proprio nell'intelligenza artificiale abbastanza gravi, nel senso che qualche personaggio rimane incastrato nel muro, qualche altro gli spari di fianco alla testa e non si gira, però tu fai il passetto, lui si attiva e si gira e ti sgama. Comunque tra i due sono le stesse cose che succedono in Halo. Una vocetta in Halo 3 ho visto le stesse cose. Ma Halo non era inneggiato proprio per la sua intelligenza artificiale? Ma l'intelligenza di Halo 3 è fichissima, ma ogni tanto fanno queste cose. Senti, vocetta della coscienza. Ogni tanto, ma come ogni tanto li fanno in Crysis? No, in Crysis 2 le fanno molto spesso. Ma... cioè, io ho ammazzato una marea di nemici semplicemente stando fermo e sparandogli e quelli non si muovevano. Poi ci sono quelli che sono vivi. L'ho giocato su PC. Secondo me il PC, da leggendo su internet, è molto più affetto a queste cose del 360. Oh, quando non stanno fermi sono anche cazzuti, saltano, s'arrampicano, ti corrono addosso, magari una cosa molto figa, tu gli stai sparando, questi ti vengono addosso e quindi devi colpirli con l'attacco, insomma col calcio del fucile, cioè sotto questo punto di vista sono fighi, però spesso effettivamente li ho beccati che erano lì e mi guardavano e vabbè, guardami coglione. Ma lì secondo me non è proprio un'intelligenza artificiale fatta male, sono proprio dei bachi evidente, come evidente effettivamente anche su 360 ho trovato dei bachi grafici, nel senso che l'arma solo una volta mi è capitato, mi è apparsa dopo che aveva finito il caricamento da 30 secondi, quindi insomma. però il gioco a me piace un casino, nel senso che comunque, a parte la trama un po' così, però almeno hai questa possibilità dopo anni di Call of Duty, di puttanate, dove c'hai sempre qualcuno che ti dice cosa fare, perché ovviamente devi essere trascinato nel gioco in Call of Duty, se no tu ti fermi, aspetti che capitino le cose. Invece in Crysis 2 per gran parte del gioco sei da solo a fare il cazzo che vuoi. Io se voglio stare mezz'ora fermo in un posto ci sto, sto invisibile, nessuno mi vede, sto lì fermo. Oh, basta. Forse hai spiegato il gioco. No, è vero, puoi farlo. Cioè, tu puoi ammazzare la gente in stealth, oppure avere delle... perché comunque i livelli sono abbastanza ampi, non come il primo, ma sono abbastanza ampi, per cui tu puoi decidere se attaccare da destra, a sinistra, da arrivare a testa bassa in mezzo con l'armatura potenziata, cosa che in tutti gli altri sparatutto recenti non puoi assolutamente fare. Cioè... guarda, mi inserisco, primo perché non ho giochi di cui parlare, quindi... bravo. E poi perché, visto che ne... insomma, ho parlato qua degli altri due Crysis... sì. Tanto vale che parlo anche di questo, che l'ho appena finito, tra l'altro, per cui... tra l'altro stiamo creando una rottura nel continuum spazio-temporale, perché dopo questo podcast pubblicherò l'outcast registrato in realtà una settimana fa, in cui avevo giocato solo le prime due ore di Crysis 2. Ma vabbè, e a me è piaciuto da matti, ma veramente tanto, a parte problemi di intelligenza artificiale, e soprattutto, pur essendo diverso, perché comunque è diverso dagli altri due Crysis, nel giocarlo, proprio nel gameplay, mi ha dato le stesse sensazioni di Crysis e quindi mi è piaciuto per gli stessi motivi, che sono quelli che dici tu, fai il cazzo che vuoi. Gli unici casi in cui crollava un po' questa illusione, anche perché avevo in mente come funzionava Crysis, sono due momenti in cui ti puoi tuffare in acqua e dopo due metri c'è il muro invisibile. Mentre in Crysis potevi andare molto a largo, a girare, a allontanarti, soprattutto non c'era il muro invisibile, squalo che ti si magnava. È sempre una soluzione migliore, sì, di un muro invisibile. Assolutamente, esatto. Sì. Qualsiasi cosa è una soluzione migliore di un muro invisibile. Scusa, in una New York che hai devastato, ci hai messo dentro di tutto, mettici un muro vero e fine. Sì, costava niente, tanto poteva tranquillamente esserci, visto il casino mortale che è capitato. Però quello che mi spaventa è la storia di Crysis 2. Ecco, la storia di Crysis 2 è storiella banalissima, cioè non c'è un colpo di scena particolarmente sorprendente, ok, però devo dire, rispetto ai primi due Crysis è scritto enormemente meglio, ma non è che ci volesse molto. In generale io l'ho trovato con un ritmo molto, cioè c'è un ritmo della Madonna, secondo me, non... se sul fronte del gameplay non ti costringe a fare nulla, sei lì e ti prendi i tempi che vuoi, però sul proseguimento della storia, dei livelli, di quello che succede, papam papam, vai là, scappa, bordello. Sì, sì, no, poi i livelli sono costruiti veramente bene, secondo me. La roba che succede attorno, i palazzi che cioè è molto coinvolgente. Comunque su 360 è il meglio che c'è, secondo me, graficamente ad oggi, come FPS. Non, anche Halo comunque è Halo fa cagare di grafica. No, no, come fe- no, perché Halo, allora, come modelli siamo d'accordo che non sia il massimo, però comunque ha sempre avuto su 360 il fatto che ha gli effetti come parti, insomma, sì. Pallottole, fumo, quella roba lì, ottimo. Questo l'ho proprio va molto più in alto, secondo me è il massimo che c'è. Poi se su PC è molto meglio, figuriamoci, insomma. Non so dire se sia molto meglio, anche perché poi io su, fino a un certo punto mi rendo conto della differenza, però sicuramente è fichissimo su PC. E guarda, volevo dire solo altre due cose, perché sono due cose che mi hanno colpito. Una, il fatto che l'ho finito senza arrivare a spaccarmi le palle, ok, basta, lo voglio finire. È già tanto questo. È una cosa che con gli FPS mi succede di rado. Cioè, sono arrivato alla fine, ok, era il momento giusto perché finisse, e la fase finale magari ho usato un po' più lo stealth e un po' meno il combattimento, però giusto, cioè non mi sono rotto le balle. E una cosa che mi ha colpito, ed è nell'ottica dell'atmosfera figa, coinvolgente, dove secondo me fa tantissimo l'audio, perché il rumore delle armi, sì, i rumori degli alieni, l'impatto delle armi, ci sono delle cose fantastiche. La scena Central Station, non so se l'hai già giocata. No. Allora, ci sono dei cosi, dei quadrupedi grossi che incontri più volte, sono quelli che devi sparargli sulle morroide che c'hanno dietro. Sì. E c'è una gialla, scena... l'emorroide. Più o meno. Basta! No, forse è rossa, tanto per... Ok, no, mi piace meglio. C'è questa scena a Central Station che io in realtà avevo già visto, perché era la scena che facevano vedere, non mi ricordo se a Los Angeles o a Colonia. Quindi sapevo esattamente cosa succedeva, come lo combattevi. E in più quel mostro lo incontri anche prima. Mm-hmm. Quindi, cioè, non è che era una novità. Nonostante questo, quella scena mi ha preso in una maniera pazzesca, perché sei dentro la stazione. A livello di trama è il momento in cui comunque dobbiamo fare le cose in fretta, perché bisogna evacuare i civili, sta per crollare tutto, bordello, morte, distruzione, aiutaci, ferma gli alieni mentre scappiamo, eccetera. Alcatraz, e sei lì con gli altri soldati che combatti sto coso, che manda gli EMP per bloccare la apprecchiatura, sì. Quindi piano piano si spengono le luci, lui fa bordello, quindi incominciano a morire tutti gli altri soldati, e all'improvviso è tutto silenzio a parte i rumori che fai tu e che fa lui. Ogni tanto manda l'EMP e quindi magari ti disattiva la tuta e ti frega perché eri lì in stealth. Oh cazzo. E sei lì che cerchi di girargli attorno, lui comunque si muove. Bellissima, cioè, avevo veramente l'ansia in quel combattimento. No, io questi comunque i giochi li sanno fare, quelli di Crytek, insomma. Sì, ma... massimo rispetto. Non pensavo, pensavo fosse un giochino, effettivamente l'avevo sottovalutato parecchio. Gran gioco, sì, gran gioco. E poi velocissimamente Shift 2, in realtà ho usato la copia di mio collega, e quindi non ho speso i soldi, ma questo lo dico perché secondo me questo gioco io non riesco a capire, ma io non riesco a giocarci, ho giocato tutti i giochi del mondo, questo c'ha un lag ma di mezzo secondo, cioè tu giri sposti la levetta e il volante si gira dopo, non dico mezzo secondo, ma quasi, io non riesco, cioè ingiocabile. Non so, settaggio. Ma ho provato tutto, perché è la prima volta che vado in un gioco di guida per console a cambiare la zona morta della levetta, cioè siamo pazzi, e non riesco a giocarci, non riesco a capire se è un problema di... Devi giocarlo col volante. Ma non ce l'ho il volante, e allora vaffanculo! Vengo cacciato di casa se porto un volante in casa mia. Allora non comprare i giochi che richiedono il volante. Forza Motorsport non ha lag, eh? È come se mi dicessi, non lo so, voglio giocare a Crysis 2 senza il pad. Io ci tocco col pad, credo. Appunto, e invece a Shift 2 ci devi giocare col volante. Allora, mi farò prestare anche il volante dal collega. Comunque, non so, secondo me è un baco della mia console, non riesco a capire. E lui invece non ce l'ha, non lo vede sto problema, vabbè. Comunque. Questo non volevo, anche perché c'è giocato... Magari del controller. Cioè, con i giochi di guida capitano queste cose che magari non ti trovi proprio nel modello di guida. Può darsi. E non c'è niente da comunque, fare. È anche vero che ci ho giocato un'oretta, quindi non posso dire altro. In realtà volevo parlare velocemente di un giochino che si chiama Super Brothers Sword and Sorcery, giusto? L'ho detto giusto, Paolo? Sword. Sword. Scusa, no, senza doppia V, Sword. Sword. Dico solo una cosa, oggi ho corretto la recensione di Fotone di quel gioco, è stato un momento, motivo in più perché voglio comprare l'iPad. È bellissimo, è perché è un gioco che a me ha ricordato tantissimo Out of This World o Flashback, e chi si ricorda le musichette di Flashback si ritroverà in un pezzo che secondo me è stato preso non è un plagio, sicuramente è stato preso, come dire, un campione della musica come omaggio. È un'avventura in 2D super pixelosa, ma talmente bella, cioè talmente geniale, che quando tu zoomi all'indietro i pixel diventano piccolissimi e quindi hai questi affreschi di questo bosco, poi c'è il monte a forma di testa di uomo. Insomma, la storia è abbastanza banale, è un cavaliere che deve aiutare delle persone trovando degli esserini che poi che fanno partire una magia. Vabbè, comunque è abbastanza surreale. La cosa che colpisce molto è il fatto che il sonoro, la grafica e lo stile creano una cosa quasi onirica, cioè tu sei con le cuffie da giocare assolutamente con le cuffie e non so come spiegare, è bellissimo, cioè tu veramente giochi questo giochino d'avventura dove peraltro quando combatti devi girare l'iPad in verticale, l'omino tira fuori la spada e lo scudo e tu fai lì tipo anche lì tipo quick time event perché devi colpire esattamente nel momento giusto oppure parare nel momento giusto. Ma è talmente bello da vedere che secondo me 3,99 euro mi pare costi, li vale tutti. Non so neanche come recensirlo perché mi piace, leggerò con molto piacere la recensione di Fotone perché sono curioso di come si può raccontare un gioco del genere. Perché domani, perfetto, e bello, veramente. Forse fino adesso per iPad 2 i 3,99 euro meglio spesi che ho fatto. Quindi tu hai comprati l'iPad 2 per questo gioco? No, beh, è una delle è una cosa in più, una casellina in più sul lato, però quasi quasi. Peraltro io ho speso 7,99 euro per comprarmi la colonna sonora, poco fa, prima quando ho comprato Asphalt 6. Comunque, Andrea, se fossi Marzullo, cioè... te sai già che lo vuoi l'iPad 2. Sì, allora, è inutile che ci giri intorno. No, il mio problema modo con l'iPad 2 Marzullo ti aiuterebbe lui. È che a me sta su... io avendo avuto l'iPod Touch per 2 anni ho imparato ad avere un po' sui coglioni queste robe di Apple e vorrei tanto che ci fosse un tablet di una qualsiasi altra marca su cui girano tutti gli stessi giochi, le stesse cose, perché comunque sarebbe sicuramente un tablet più figo. Per quanto mi riguarda, più facile, cioè che puoi usarlo per più cose, sì, più figo la vedo difficile. No, secondo è bellissimo, me è bellissimo l'iPad 2, è bellissimo. Boh, ad esempio c'è quello di BlackBerry che l'ho preso in mano alla GDC e vabbè, a parte il fatto che è più piccolo dell'iPad, perché gli fanno sembra che tutti abbiano deciso che lo devi fare più piccolo dell'iPad, è molto figo. Tra l'altro c'è anche un sacco di giochi, tipo c'era Machinarium, per dire. Ah, però vabbè, cioè, alla fine il problema è che ovviamente se vuoi avere tutti i giochi e le puttanate che escono, l'unico che ti dà la sicurezza di averli è l'iPad. Per adesso sicuramente sì, ce ne vorrà di tempo perché lo abbattano da questo punto di vista. No, non mi io ho giocato Jericho, ma no, cioè, andiamo avanti. Allora, passiamo al... Ah, no, aspetta, so che a te interessa, ho iniziato a giocare Ritorno al Futuro. Ma l'ho iniziato anch'io Ritorno al Futuro, ma già da mo'. Ne ho parlato. Sì, no, so che è un argomento che... Ah, scusa, no, e cosa ne pensi? Cosa ne pensi? Ah, è primo, comunque il primo. Sì, perché è andato gratis il primo, l'ho scaricato, ma lo gioco, devo dire, mi è venuta voglia di... Perché con sto fatto che devi comprare per forza tutta la serie, sì. Non è sbagliato a un certo punto dire, sai che, facciamo provare gratis il primo episodio. Tra l'altro 22 euro, cioè nel senso, costa ancora 22 euro, o 22 sterline, sì, mi sembra di sì. Insomma, ci può anche stare, tutti... No, è chiaro, però il fatto che ti danno gratis il primo episodio, magari... Quello è bello, sì, quello. Ah, comunque penso di averlo quasi finito. Ecco, per iPad, tu pensi a giocare con... Adesso io non l'ho comprato su iPad, però e ho letto che scatticchia un po', non so come faccio. Beh, ma guarda che su PC, allora io ho le due schede grafiche in Sly, e quando gioco a Crysis 2 partono le venti di tutte e due le schede, ed è tipo, c'è rumore a livelli prima Xbox quando girava il CD. Oh, Ritorno al Futuro, parte normale... Vabbè, sento che aumenta leggermente, però cazzo, Ritorno al Futuro con sto motore grafico di merda, lo metto a 1080p, dettagli al massimo, tutto cazzuto, fanno lo stesso rumore che fanno con Crysis. Ottimizzato benissimo. Porca troia. Immaginati quello splendore di Jurassic Park, allora. Mamma mia. Madonna. No, perché poi Ritorno al Futuro, perlomeno, cioè la grafica è bruttarella, ma almeno fa lo stilizzato. Invece Jurassic Park ha quella stessa qualità grafica, ma lo stile realistico. Sì, poi Jurassic Park, oltretutto, non solo si scontra contro il videogioco in sé, ma si scontra anche contro il film, no? Come dice... Sì. con l'impatto visivo, no? Quindi insomma. No, però Ritorno al Futuro è carino, cioè vabbè, è un'avventura semplice, enigmi che proprio inutili. Tra l'altro sono stato mezz'ora prima di capire come togliere tutti i cazzo di suggerimenti e aiuti che apparivano a schermo. Sì, c'è l'opzione. Però è simpatico, è fatto bene il doppiaggio. È molto fan film, i fan del film è fatto per loro, alla fine. Sì, la musica, cioè io che comunque sono fan fino a un certo punto quasi mi ci emoziono. No, la scena iniziale quando... va diversamente da come te la ricordi tu e come l'hai vista 56 volte. Dici, ma c'è qualcosa che non va? Questo gioco non a me, non hanno fighissimo, così. Sì. Oh, bello, infatti penso mi comprerò la serie dopo aver giocato gratis il primo episodio. C'è anche da dire che per esempio su PlayStation 3 è uscito solo il primo e il secondo non c'è traccia, su iPad pure. No, è uscito il secondo. Su Play 3 è uscito? Sì, escono, perché stavo sistemando il database di videogame.it e ho notato questa cosa che quelli PS3 escono mediamente un mesetto dopo, infatti il terzo episodio ancora non c'è. Ah, ok. Bene, allora passiamo al consiglio del tentacolo. Oggi in realtà ne do solo uno di consiglio, ovvero il nuovo fantastico album dei Foo Fighters che è uscito l'8 aprile, che si chiama West in Light. Ho detto giusto, Paolo? Perfetto. Ed è un disco peraltro prodotto da Butch Vig, quindi dall'ex produttore dei Nirvana, se non dico una puttanata, e nonché batterista dei Garbage, ed è un disco bellissimo perché insomma è un disco maturo, malinconico, molto meno urlato dei precedenti, mixato benissimo, prodotto con livelli altissimi, molte canzoni sono melodiche, insomma i Foo Fighters sono cresciuti, sono finalmente una delle più grandi band di sto mondo, finalmente, e ricordo che a giugno vengono a Milano, anzi a Rho, a fare insomma un concertino all'aperto, dove io non andrò perché detesto i concerti all'aperto, ma spero tornino però a Milano generalmente si sente meglio all'aperto che al chiuso, perché fanno cagare i locali. No, beh, ma quando fanno il foro, d'altronde loro li sempre... No, dai, il Forum fa schifo. No, io guarda veramente. Ma d'altronde i Foo Fighters li metti al Forum o dove li metti? Cioè, io lo sai, ma infatti, io guarda, per quanto mi riguarda a Milano, o vai al Teatro degli Arcimboldi, dove ovviamente si sente da Dio, però meno male perché ha appena speso 100 euro di biglietto. O se no, per quanto mi riguarda, le discoteche sono il peggio del peggio. E comunque Forum e il Mazda Palace, io li ho trovati sempre pessimi. Talmente pessimi che a sto punto meglio il concerto all'aperto e vaffanculo. Almeno non muoio dal caldo. C'è troppa gente al concerto all'aperto. Peraltro non è che al Forum ci va poca gente. Sì, ma non lo so, boh, sarà che io mi trovo meglio. No, faccio anche meno problemi ad andare a spaccarmi le ossa nel pogo. Mentre, non lo so... E peraltro i Foo Fighters, la prima volta che li ho visti, io sempre, quando sono venuto in Italia li ho sempre visti, questa sarà la prima volta che non vado a vederli, mi pare Reggio Emilia o Modena, alla festa dell'Unità, anni e anni fa, proprio col primo disco, e noi, io e mio amico, siamo andati lì senza sapere se ci sarebbero stati biglietti ancora disponibili, siamo arrivati lì e dicendo, oggi ci sono i Foo Fighters, vero? Ah sì, ci sono i Foo Fighters, ma biglietti ce ne sono ancora? No. Cazzo, come no? E noi eravamo appena arrivati a Torino. No, il concerto è gratuito. Come gratuito? Sì, è gratuito. Oh, cioè, eravamo in 200 persone. Forse il concerto più bello della mia vita. Cioè, no, perché ero lì sotto Grohl dicendo sono qua. Comunque, il disco... Io li ho visti solo una volta, tra l'altro in Olanda, a un festival, ed eravamo credo 50.000 persone, però erano gli headliner, quindi ho suonato 2 ore, è stato un gran bel concerto, mi piacciono, però non è che sia tanto fanatico, però il concerto mi è piaciuto molto. Loro sono molto bravi, poi si sbattono comunque, quindi... Sì. Non danno da pensare che non c'hanno voglia mai. Poi mi dicono sempre che assomiglia a Dave Grohl, per cui comunque gli do un attestato di stima e buonanotte. Sei più alto di te, però. comunque, compratelo, è bellissimo. Qualche altro consiglio? Io ho visto l'altro ieri Sucker Punch e vaffanculo! Deduco che non ti sia piaciuto. Poco. Ma no, è che c'è che mi sono annoiato in una maniera. Che palle di film! Mamma mia! No, ma gli è piaciuto, eh? No, no, okay. Ma cioè, guarda, non sto neanche a dire, cioè, mi ha fatto cagare, secondo me è scritto. Allora, l'inizio è bellissimo, tipo i primi 5 minuti, figata totale. Poi a un certo punto c'è una scena che se non si nota troppo, ma è molto bella, perché è una cosa ambientata tipo, sono in camerino e c'è la macchina da presa, che è anche difficile da spiegare, perché è un po' una roba la David Fincher, passa attraverso lo specchio e inquadra ruotando attorno a queste e si vedono loro riflesse nello specchio, gira attorno, è una roba figa dal punto di vista tecnico, anche se è una scena normalissima di dialogo, per cui magari non ci fai caso. Ma perché... scusate, è da un regista visionario di 300. Esatto, sì. Tra l'altro hai citato l'altro suo film che mi fa schifo al cazzo. Allora non ci siamo. Mentre invece gli altri due che ha fatto mi piacciono molto. Quelli che Sin City? Oddio, il remake dell'Alba dei Morti Viventi e Watchmen. Ah già, Watchmen è sempre suo. Beh, Watchmen è bello. Sì. Sono queste due cose mi sono piaciute molto. E c'era una... vabbè, sì, ci sono cinque manze, ma insomma, voglio dire, non è... Beh, compri un DVD porno e sei a posto. Quale, cioè... No, infatti, per il resto mi ha fatto schifo. Ma cioè, ripeto, più che altro è che mi ha annoiato a morte. Il che per un film d'azione, insomma, è che c'è l'idea carina all'inizio e poi va avanti tutto il film a fare sempre la stessa cosa, che è la versione stronza di Inception. Però, okay, cioè, ma... però ci sono le gnocche che combattono con i draghi e con i troll, figata. E la colonna sonora fa schifo. Ci sono le cover brutte delle canzoni belle. No, davvero, però so che molti l'hanno apprezzato perché ci sono le gnocche che combattono con i draghi. Poi è visionario, è dello stesso regista di 300. No, io devo ancora vederlo, però mi interessava. Poi adesso abbi pazienza. Allora, questa non è mia, l'ho letta sul blog lì, 400 calci che ho già consigliato una volta. Ma che c'ha di visionario uno che tutto quello che fa lo copia dalle altre parti? Un visionario dovrebbe avere qualcosa di suo, che crea, che immagina. Cazzo c'ha di visionario in 300 che ha preso il fumetto e l'ha fatto un canale al cinema? L'intro di Watchmen è, cioè, è qualcosa di notevole, però. Ah, è vero, l'intro di Watchmen è fighissimo. E infatti... da quello che leggevo, tra l'altro, sui 400 calci, l'intro stessa di Sucker Punch è quello non che è meno. L'inizio di sui film. Quindi magari è un visionario per quanto riguarda l'intro. Qua l'inizio è fichissimo, racconta tipo in 5 minuti tutta una premessa solo per immagini, perché c'è una canzone sopra, riassumendo, ma magistrale. L'inizio di Watchmen sappiamo che figata è, l'inizio di 300 non me lo ricordo, ma sarà sicuramente bello. Però l'inizio di Watchmen, se non mi ricordo male, paro proprio alla sceneggiatura. No, sì, però è fatto bene, e poi ci sono quei titoli di testa. No, è vero, c'è il titolo di testa, sì. E poi l'inizio, vabbè, non so se l'avete visto, ma l'inizio del suo remake delle Alba dei Morti Viventi è pazzesco, è bellissimo. Sono bellissimi. C'ho ancora i brividi, guarda. Sono fighissimi. Anche lì i titoli di testa con Johnny Cash è facile, però sono fighi i titoli di testa. Ma poi c'è quell'inizio che a casa con la bambina, poi esce fuori, l'inquadratura dall'alto con la macchina che si scrive. Fantastico. Vuoi anche perché, che io mi ricordi, era la prima volta che vedevo uno zombie correre. Sì, quello è effettivamente... No, vero. E guarda che 28 giorni poi dopo... Culmina con quella... ripresa a volo d'uccello che si allontana sempre più dalla macchina, che sta scappando, e c'è un sacco di cose che succedono dietro la macchina. È bellissimo quel film. È bello, sì, mi è piaciuto. Ma comunque guarda che 28 giorni dopo è precedente. No. Sì. Al remake dell'Alba dei Morti Viventi. Sa che hai ragione. Ma sono sicuro che adesso nel su Wikipedia... No, ma guarda, me lo ricordo che è precedente. Ah, sì, hai ragione. Ma scusate... Anche lì, 28 giorni dopo, un altro grandissimo inizio. Ma sì. Mi è piaciuto tutto 28 giorni dopo. Invece secondo me quello va abbastanza in merda. No, diventa un po' palloso a metà. Però è il solito problema di... Aspetta, no, sto prendendo una cavolata. L'ha scritto Boyle. No, l'ha scritto... Garland. L'ha scritto Garland, l'ha scritto 28 Days Later. Ma comunque, cioè... Perché Garland ha quel problema. A lui, a Garland, un genere di film non basta mai. Ci riesce a fare qualcos'altro. È vero. Ma qualcuno di voi ha visto il film precedente di quello che ha fatto di Versus the World, come si chiama? Come no, certo, stai scherzando, Shaun of the Dead, devo dire. Shaun of the Dead, sì, quello, perché lo voglio vedere. È bellissimo. È bello, okay. Shaun of the Dead è molto bello, allora, il mio problema è con Hot Fuzz. Che? Io ho... Cosa Mufasa è il film che ha fatto dopo Shaun of the Dead, che è una presa per i fondelli dei polizieschi, diciamo. Ah, okay. Ma guarda, io non so se sia lo stesso per Hot Fuzz. La cosa bella di Shaun of the Dead è che è sia parodia presa per il culo, e se sei uno a cui piacciono i film di zombie ne ha visti un po', cogli tantissime cose divertenti, che si vede che è uno che sa che cosa sta prendendo per il culo, ma allo stesso tempo non è neanche male proprio come film di zombie serio, nel senso che comunque c'ha delle scene horror fantastiche. Vorrei ricordare che il titolo italiano ovviamente è L'alba dei morti dementi, che non c'entra un cazzo. Ho sentito di peggio. Però è bello. Mi ricordo che lo difesi a spada tratta quel titolo su un forum, The First Place credo fosse, perché comunque nulla può battere in pochezza di fantasia o comunque quello che hanno affibbiato Eternal Sunshine of the Spotless Mind, che l'hanno chiamato Madonna mia. Sì, quello è terrificante. In quell'ottica, l'alba dei morti dei menti, comunque, guarda, è veramente. Ma poi è bello perché non è come si dice, il demenziale presa per il culo. Si vede che è una roba fatta come si deve. Sì. Cioè, non è lo scary movie, ecco. No, assolutamente no. Ha comunque un suo senso anche come racconto, pur essendo una roba comica. Poi la cosa è un bel film. Sì, ma poi le idee. Cioè, no, me lo guardo. Gli zombie britannici invece che andare al centro commerciale vanno al pub, è fantastico. Questo è fantastico. Tu, Paolo, hai consigli da dare? Consigli non tanto, perché gli ultimi tre film che ho visto, nessuno di quelli mi ha convinto pienamente. Ho visto Valhalla Rising, che è del regista, credo inglese, anche di Bronson e di Pusher, la trilogia di Pusher, che Pusher non ho mai visto, Bronson sì, ed è un film famoso ultimamente perché c'è Tom Hardy, che è uno degli attori di Inception, che sarà poi il Bale nel prossimo Batman, che nonostante la sua prova incredibile in quel film, Bronson a me non mi ha lasciato assolutamente nulla. Così tanto che probabilmente, per quanto te lo posso riassumere in una persona che spende l'intero film picchiando gente, che sicuramente non è così, e non ne sto rendendo giustizia al film. È un film che ha ricevuto anche dei premi, comunque è un film stimato, con me non ha funzionato. Valhalla Rising è un po' meglio, c'è una grandissima prova dell'attore, non mi ricordo il nome, ma è il cattivo di Casino Royale, Mads Mikkelsen, bravissimo, è danese, credo. È danese, sì. Che è un grandissimo questo film, mi ha lasciato un buon gusto, tipo un Gatsu di Berserker. Questo una persona tranquilla, insomma. Una persona tranquilla, un guerriero di pochissime parole, è un film su vichinghi che vanno alla ricerca della Terra Santa. Quindi è un po' in contrasto con la teoria che Colombo, no, avesse scoperto l'America. È un film lentissimo, pochissimo dialogo. Ammetto di essermi addormentato a metà e ho dovuto ricominciare la mezz'ora che me l'ho perso. Non è un film che non mi è piaciuto. È vero, è un film davvero lento. Infatti il mio parere su quel film è bello, ma che palle. Esatto. Grazie di avermi tolto dall'inghippo, perché non sapevo come descriverlo. È esattamente così. Però è una grandissima prova di questo attore, ed è l'unico personaggio che davvero mi porto dietro dopo la fine visione. Ed è di un carisma che era simile a quello che mi fece innamorare di Gatsu in Berserker. Perché poche parole, molti fatti. E poi, senza spoilerare, introduce una super mossa geniale, che non è proprio super mossa, una mossa di combattimento che coreograficamente mi ha soddisfatto, non ve la descrivo perché è uno spoiler, ma è tipo l'unica cosa che potrei salvare di Troy, quello con Brad Pitt, che almeno la cosa che riesco a salvare di quel film è la mossa di Achille, che salta e dà la spadata nel collo. Dai, la mossa di Achille era fantastica. Lui cominciava i combattimenti con saltino e spadatina, saltino, sembrava un videogioco. Attacco debole, attacco forte. Questo film. Però sì, non è un film che posso raccomandare a braccia aperte, perché è veramente veramente, veramente lento, senza musica di rilievo volutamente, perché l'effetto è quello che volevano creare ovviamente, e con un ritocco dell'immagine di post produzione che secondo me era fatto da un bambino di 2 anni. In realtà era voluto, era proprio l'effetto, se uno delle poche volte mi sono guardato gli extra, cioè una featurette che ti spiega le scelte di regia, io non l'ho bevuta completamente, però a quanto pare l'hanno ricercato questa correzione dell'immagine. Che culo. è un film di intensi silenzi esatto. E avvolgenti paesaggi. Girato nel bosco di Trocano, sembra. Madonna, che consiglio. E quello che ho visto ultimamente. Poi c'era Let Me In, che è il remake americano di Let the Right One In, che è svedese, credo. Sì. Che è il film di vampiri, non Twilight. Ah, quello, Lasciami Entrare. Vampiri con il controcoglione, insomma. Sì, sì, ma il film svedese è terrificante, cioè veramente... È un film bellissimo. No, ho letto un libro di recente, pure quello è bello pesante. Io il film svedese mi ha lasciato una bellissima impressione e mi ha ridato fiducia nel cinema vampiresco, diciamo, perché finalmente era qualcosa che funzionava senza dover ricorrere a brillantini sulla pelle o smorfiette della minchia. Il remake in sé, che è del regista di Cloverfield, che tra l'altro mi è piaciuto tantissimo, è un remake senza infamia e senza lode, però mi fa pensare perché a quel punto allora fare un remake, perché è quasi copia carbone e non è bello quanto l'originale. Perché gli americani non vanno a vederlo il film in svedese. No, sicuramente, quindi se comunque ben venga se un americano dopo aver visto quel film si pensa chissà come sarà l'originale se lo vede in originale, perché comunque l'americano, seppur mi ha stupito per quanto riesca a spingere il fatto di violenza, non raggiunge gli splendidi, scusate, siamo da questa puntata, no. Non raggiunge gli splendidi livelli dell'originale. La scena, senza spoiler anche qui, ma c'è la famigerata scena della piscina, e qui mi fermo, che chiunque abbia visto l'originale se la ricorderà finché campa. Beh, io non ho visto nessuno dei due film, ma ho letto il libro e me la ricordo comunque, perché è una scena cinematograficamente perfetta, oserei dire. Un po' come tutto i Sorti Sospetti, ma quello è un altro discorso. La scena è perfetta. Se dovete scegliere, scegliete, ovviamente andate per l'originale, se non vi fa fatica leggere i sottotitoli. A meno che non darlo doppiato. C'è anche doppiato in italiano. Date tutto in Italia, basta. Sì, ma ancora in inglese, dai, permettimi che vederlo in svedese, cioè... Ma i sottotitoli cosa vanno fatti? Sottotitoli di male. Sì, ma almeno in inglese capisco quello che dicono, in svedese no, cioè non... Vabbè. Vabbè, comunque, quello è l'altro film che ho okay. visto. Allora, io, insomma, approfitterei qua per dire che Triangle, Triangle, non so come si dica, porca Eva, Triangle. Devo essere sincero, appena l'ho finito di vedere, non mi era piaciuto tantissimo. Rimuginandoci un po' sopra, devo dire che comunque è un film... bellino, un po' troppo pretenzioso a livello di trama, dove si incarta pecora in un certo punto e perde la continuità della trama, nel senso che è evidente che non ha senso la trama. Comunque devo dire che nella mia personale classifica di stelline da 1 a 5 invece dagli 2 gli do 3. Guarda, ti tengo la parola, ma per poco. Io invece no, ma io dovete considerare che venivo da una situazione simile a quella tra Fahrenheit e Heavy Rain, cioè il regista di Creep. Io aspettavo la peggio cagata immonda. Mentre mi guardo questo Triangle, che innanzitutto non è un film horror. Anche me lo possono spacciare in marketing, me lo può spacciare come vuole, non è un film horror, è un thriller. Però può far paura se sei uno che li patisce. Cioè, nel senso, io che sono abituato a guardare film horror non ci ho avuto paura per un attimo, ma perché non si impegna a farmi paura. Però obiettivamente per il tipo di cose che racconta, di atmosfera che c'è, se sei uno che un po' li patisce ti cachi sotto. Sì. E per il modo in cui io godo nel vedere un film, quel film funziona perché a me piacciono quelli che io chiamo, insomma, non io chiamo, insomma, è usato una che cazzo che sono Dio in terra, no, i set pieces in un film sono importanti, e quelle situazioni in cui il film si gioca le carte migliori e te ti emozioni o meno, ti senti qualcosa per i personaggi. Secondo me Triangle ha due sequenze assolutamente magistrali che io mi ricorderò a natural durante. E soltanto per quelle due scene per me vale la pena vederlo, perché sono due scene che ma non preferisco non dirlo in caso. Va bene, poi fuori onda ce lo dici. Sì, fuori onda ve le dico. Mi hanno lasciato di sasso. Comunque tre stelline. Morei... Sono andato a vedere su Mubi e anch'io gli ho messo tre stelline. Cos'è? Su Mubi, un sito di questi qua, cinema e aggregatori e cazzate. E premi e achievement. No, in realtà no, ma poi questo è uno di quelli dove puoi anche vederli i film. Sì, è quello che hanno messo anche su PlayStation 3. Esatto, sì, che c'è anche su PS3. Tra l'altro cioè il problema di Triangle è che noi l'abbiamo visto apposta per poterne parlare con te, però ormai 2 mesi fa... È vero. Quindi... No, comunque, allora, devo dire che se tu mi avessi detto, l'hai detto il nome della protagonista, ma se io avessi capito che era lei, l'avrei guardato il giorno dopo, perché... Io manco la conosco per l'attrice. Ma lei, mi sono innamorato di lei quando faceva la Dark Lady in Alias, nella serie TV, che fa proprio la puttana, e allora, un ottimo... E comunque... al suo fascino, secondo me in Triangle è proprio l'anello debole del film, nel senso che recita male, però vabbè, comunque ci sta, insomma, è una mia impressione. Le poppe però recitano bene. Come? Le poppe recitano bene. No, è dal suo contributo, ecco, tutta insieme. Non me l'ero ricordato guardandola, però poi ho visto su Internet Movie Database che era la protagonista femminile di 30 giorni di buio di notte. Quello non l'ho mai visto. È carino, meglio il fumetto, però al film secondo me non era da buttare. Va bene, visto che stiamo facendo lunghissimi, chiudiamo con l'unica. Ci hanno chiesto di parlare di più di cinema. Ma di fatto abbiamo parlato più di cinema. Tutti tranquilli, 3 stelline su 5 Triangolo. Comunque, ci scrive Fede il Mito, che ci scrive sempre, che a me fa tanto piacere. E questo scrive solo a noi, nel senso che probabilmente manda anche mail ad altri podcast, però non fa la mainstreaming. Dove ci dice che siamo sempre grandi. Ci chiede se a noi piacciono i fan game tipo Broken Sword 2.5. Mi viene in mente un Zack McCracken 2 che non si sono mai finito, intanto è morto qualcuno. Comunque, voi avete mai provato a scaricare una di queste cose? Io sì. Io sto giocando il come si chiama, quello di King's Quest, che vabbè è carino, ma in realtà volevo scaricare perché mi sembrano fatti veramente fighi. Ho fatto una serie di remake dei primi episodi di Space Quest e forse anche proprio di King's Quest, però non con la grafica 3D, non c'ho i soldi, ma con la grafica 2D molto meglio di come era al tempo. Secondo me è meglio questa cosa che 3D ma non c'ho i soldi. Però tu stai parlando di remake. Sì, no, perché... i seguiti apocrifi no, a parte appunto questo di King's Quest perché è una cosa particolare, perché non lo so, alla fine, cioè già non c'ho il tempo di giocare i seguiti veri, giocare pure quelli finti che poi mi sembra che sto giocando una cosa che non è successa. Però se è fatta bene rientra un attimo nelle meccaniche, soprattutto con le cose magari uscite dalla Lucas, quelle cose lì che ovviamente non possono avere la stessa verba originale, però... È carino, cioè io uno Zack McCracken 2 me lo comprerei a nastro. No, ma sì, ma tra l'altro, cioè, probabilmente i fan game di Monkey Island sono meglio di Monkey Island 3 e 4, per cui voglio dire. Sicuramente. No, ma allora, se la domanda cosa ne pensate di quei progetti, figatissima che esistano, e per carità. Cioè... Sì, quando purtroppo non li fanno chiudere, sì, davvero. Sì. Quello che hai citato te di King's Quest l'avevano fatto chiudere per anni, se non mi sbaglio. Sì, poi alla fine ha raggiunto un accordo con Activision, esatto. ed è uscito senza, cioè i nomi dei personaggi, dei luoghi ci sono, però non c'è King's Quest nel titolo. Oltretutto stanno tipo al 3° episodio su 5 e Telltale ha annunciato che fa un nuovo King's Quest. Gliel'hanno messa in quel posto. Però insomma, cioè, andare contro queste cose a me sembra proprio che ti inimici i fan della serie. Cioè, infatti poi perfino Activision, che sono gli stronzoni, i nazisti, alla fine poi li lasciano fare, perché anche quell'altro progetto che dicevo dei remake dei vecchi King's Quest gli hanno dato il permesso. Ma è una cosa carina, i fan tanto non lo faresti mai un sequel di quella roba, quindi insomma. Ma secondo me un tempo spaccavano molto più le palle, io ricordo tante cose di progetti del genere chiusi, che adesso è talmente potente internet e il, come si dice, il backlash. Cioè, insomma, la gente che poi ti spacca i maroni perché hai interrotto, ma che problemi ti dava, che fastidio ti dava, che ormai li lasciano fare, fanno un accordino del tipo sì, però non ci fai i soldi. E secondo me non è un caso che, cioè, per dire, King's Quest, i remake dei giochi vecchi si chiamano King's Quest Redux, mi pare, però a Silver Lining gli hanno fatto togliere il nome King's Quest probabilmente perché, anzi sicuramente perché già sapevano, erano già in trattative con Telltale, certo. E Peraltro due cose carine su questo tema qua che ho visto è, uno, solo un filmato che peraltro ho messo sul blog del Tentacolo Viola, che è cambiato, si chiama, siamo andati su WordPress, poi lo dirò anche dopo, e il tentacoloviola.wordpress.com, di un picchiaduro fatto con il Mugen, o Mugen, che è un tool per fare picchiaduro in 2D, dove ci sono tutti i personaggi di videogiochi, da Link a Master Chief, a i tizi di Soul Calibur, a Kirby, insomma, praticamente hanno messo, quello non lo faranno mai uscire ovviamente, perché se non Nintendo, Microsoft, c'è anche Kratos, quindi, e Sony li uccidono. E poi il progetto che io aspetto da una vita, ovvero il rifacimento di Half-Life 1 col motore, col Source Engine del 2. Black Mesa. Black Mesa, esatto. Quello, chissà, è ancora vivo il progetto, cioè sono, sì, sì, sono 8 anni che lo stanno facendo. Poi giustamente questi ci mettono un tempo perché... Io non credo neanche sia, cioè, insomma, di essere in 200 persone per poter fare una cosa del genere. Sì. Più o meno quanto ci stanno mettendo per fare episodio 3. Sì. C'è anche una news che non ho messo, che però dicono che Steam ha tolto le risorse ad Valve per sviluppare i giochi. E questa cosa mi sarebbe piaciuta discuterla, però vabbè. Cioè, hanno fatto due Left 4 Dead, hanno fatto... Difatti. No, cioè, che cazzo dite? Difatti poi qualcuno gli ha fatto notare, ma veramente da quando è uscito Steam ci sono due Left 4 Dead, c'è due episodi di Half-Life, c'è un altro paio di cose, abbiamo messo su il negozio online di giochi più mostruoso della storia, insomma. Vabbè c'è anche da dire che hanno, penso, tirato dentro anche dei team per fare questi giochi, cioè, sì, credo... beh, sì, sì, sì, Left 4 Dead era uno che si chiamava Turtle qualcosa, esatto, sembra. sì, vabbè, però, è normale, hanno fatto i soldi. Mi è venuto in mente mentre parlavi di questi giochi qua fatti da fan, sono molto carini i The Make, i giochi rifatti come se fossero stati fatti sui sistemi vecchi, tipo Halo in 2D, oppure una cosa che fanno spesso sono i giochi come sarebbero stati su NES, e ci sono delle cose deliziose secondo me in questo, c'è anche Portal se non sbaglio in queste... Non credo sia quello in Flash che dicevi tu, credo sia un'altra roba, magari mi sbaglio. E ce ne sono svariati e sono uno più carino dell'altro. Bene, bene, dopo questa panoramica di puttanate che abbiamo detto in queste 2 ore e mezza, o 2 ore, non so quanto viene, io vi ringrazio per il tempo concesso, ringrazio Andrea, ringrazio Paolo, se volete salutare. Ciao a tutti amici. Io volevo solo dire che visto che abbiamo parlato di Shaun of the Dead, adesso vado a guardarmi Zombieland che ce l'ho e non l'ho mai visto. Io vado a dormire adesso. Quasi te lo spoilerò, così almeno... ma non lo farò, Andrea. Ah no? Cazzo! Cosa c'è? Cerco disperatamente uno spoiler da fare al volo e non mi è venuto in mente nulla. Un saluto a tutti. Va bene, no, salutiamo, dai su, ciao. Fa cagare, Sucker Punch, fa cagare, comunque muoiono tutti. Ciao. Basta, veramente. Ciao. Come detto in apertura e durante la puntata, il blog del Tentacolo Viola è nuovo ed è visitabile all'indirizzo iltentacoloviola.wordpress.com. Tutti gli altri contatti sono rimasti invariati, ovvero Twitter a twitter.com/iltentacolo e su Facebook semplicemente cercando il Tentacolo Viola. Anche su iTunes, sul campo di ricerca è sufficiente scrivere il Tentacolo Viola e troverete tutti i nostri episodi. La mail, come sempre, è iltentacoloviola@gmail.com. Vi ringraziamo, speriamo il mese prossimo di uscire in maniera regolare. Un saluto a tutti, ciao!